Osnabrück! Quanti anni fa? Benvenuti, 33esimo episodio, Tycoons & Dragons e la maledizione più di Katta. Più di 100 Tycoons & Dragons è in diretta ora. Ora, non prima, non dopo. Andiamo a leggere quello che ha scritto Katta. Siamo Tycoons & Dragons, voi ci potete seguire sui nostri canali social, che sono la nostra pagina Facebook, il blog di gtr.wordpress.com. Korg. Sulla pagina anche di RGTR, ma soprattutto dal Pakistan. Su Pakistan TV. Da Bologna oggi siamo io, Andrea Giacomo Vecchi, lui, Stefano Gamberoni, qui io. Giulio Bosi, qua Francesco Arcignano e soprattutto il master Enrico Cattabrica. Invece da abbiamo Marco Bosi, che dovrebbe essere staccato, portato, mostrato. Ma saluta gli spettatori, Marco. Scosso, ucciso, okay. Ha salutato, ora al netto della 89%. È una canzone tradotta, immagino. Come la maggior parte delle cose. Sì, sì. Solo per sfoggiare che ha la moglie traduttrice, una roba fatta. Poi dopo ti daremo il mettersi il mastro ogni volta che sono non mi risulta di essere sposato con Google. In realtà è il contrario, sei una compagna traduttrice, non sai un cazzo di inglese perché fa mandare avanti lei. Ah, dici che gliela fa lei? Dai, visto in faccia. Hai ragione. Non pensi che faccia, non sai che sa scritta lui. Non vedi ogni volta che facciamo una cosa che lui è sorpreso, perché la campagna è per fare l'amico. Giulio sgozza il cavallo, cazzo, ci guarda come se ci fatto una cosa non prevedibile. Errore. Cosa? Vedi, ben 4 persone, però 5 con lui. Non vede. Ora non vede più niente perché adesso sì, se mi so giocare con lui. Ragazzi, è una cosa. Quante scene di più? Giorno bucato davanti ai miei occhi che si aprono invitandomi. Beh, non dice nulla. Beh, mi fai la conosciamo questa canzone. Dopo te la faccio. Tu è molto facile che la conosco. Ma gli altri dai sempre della da mangiare, a me non mi dai mai niente. Anche così. No. Ah, perché non è inserito. Chiamo Ambra che me la traduca. Ah, non sei già inserito. Parla Marco, per favore. Tecnicamente. Perfetto, sentiamo. E senza ulteriori indugi. Musica maestro, decidete che fare riassunto. Ma voi non avete proprio fatto un cazzo mentre io via? No, stanno ancora mangiando. Stavamo aspettando. Stavamo aspettando. Sì. Rispetto. Non avete mai aspettato? Oggi state aspettando. Perché altre volte non avevamo rispetto di te. Adesso ce l'abbiamo. Il piccolo calzo non troppo. No, mi mancano. Quindi... Ah, questa canzone. Ascoltare musica è un volume troppo elevato. Ah, tra l'altro noi ci dimentichiamo sempre, ma tu hai sempre Frank dietro. Beh, raga, non è che siamo combattenti. Vabbè, però potresti come magari che flavor. Magari imita le voci, però. Sì. La scimmia che ha fregato la... Me l'ha regalato, la questa campagna. Non ci sono, sei un animale rubato in ogni campagna. Non puoi dire questo, può essere. Il resto fa sempre il druido, quindi c'è. Non è vero, sono un ladro. Sa che mia Coloni era lui l'animale. No, certo. E Lars che ne aveva uno, o sbaglio. Un Coloni. Si chiamava Jack. Questa no, io non c'ero Geronte. Jack, non c'ero Geronte. Sì, ma sì. Quando era un druido. Quando era un druido. Ma era nella 3.5, dai. Ma è stato comunque davvero un'animale. Comunque uno di voi un animale ce l'ha e l'aveva anche mandato a fare delle cose. Ed è Marco Bosi. Vabbè dai, facciamo un riassunto breve, tanto abbiamo combattuto. Io il riassunto della sessione ce l'ho. Giulia si è rotto il cazzo. Abbiamo combattuto, mi sono rotto il cazzo, Marco. Sfortuna ha mandato il fotopo a cercare il libro della strega. Per adesso ho trovato il corvo della strega. Noi abbiamo letteralmente buttato giù vari giorni. Esattamente. Che è bruciato un po' le scale. E Kevin ha fatto una brutta fine probabilmente. Ah, è vero, Kevin è l'unica cinematica degna di nota. Che è apparso praticamente da, si è rivisibilizzato. si è reso di nuovo visibile per un attimo. È comparso un bel po'. Comparso Radi. Radi. Radin. Radin. E ha di fatto tentato di rapire e di portare via. Sì, è vero, arrivare in alto Casimir. Ah, no, Radi. Casimir si è liberato facendo una magia che ha creato un'esplosione di ghiaccio. Però si è liberato da Radin, positivo, lato negativo è volato giù dentro una casa sfondando nel tetto. Diciamo che l'idea era piuttosto che finire nelle sue mani. Esatto. Piuttosto che dover gestire a livello di roleplaying sembra finito molto male. In termini di gioco abbiamo fatto due conti molto veloci, potrebbe essere ancora vivo. Potrebbe essere ancora vivo, chi lo sa. Poi la situazione è la seguente. C'è ancora. Vicino al punto S5 sulla mappa, uno di quegli flamescull degli scheletri infuocati che era stato lanciato dal trabucco scheletrico. Ma ce n'era ancora uno. Vabbè, ste cazze, quella della battia. Sì, sapete che è qua dentro. Poi dalla battia non è nelle vostre immediate vicinanze. E, dopodiché, grazie al vostro alla vostra eroica difesa siete riusciti a impedire a due delle tre colonne di zombie di salire sulle mura. Penso sarebbe andato molto peggio e quindi ve ne rimane soltanto una. Entrare tutti dopo anche c'è dentro. Beh, abbiamo fatto una bella strategia però. E quindi Atlas, ma è vero che sta tu sei il primo. Puoi dire solo lo scappatoio di punti vita di ognuno. Così. Punti vita. Mi stavo morendo. Beh, cioè, siamo tutti in bella merda perché siamo dal combattimento. Sì, appunto, per quello. Io mi sembra che sto rischiando. Beh, c'è sfortuna che ha 16 perché è punti ferita. 14. 8 temporanei. 16, Marco. Eh sì, ne avevo detti due in più, mi sembra sbagliato. E ormai sono 16, buona, non ero per cazzo. Ah, mi ero sbagliato, non avevo sbagliato, ero Patka 47. Vedo 150, ma non 148. Garrosha 21, Ward 31, io sono a 28. Race è full. Basta. Vale. Salutiamo. Dai. È vero, salutiamo Edoardo ovunque questo sia. Che oggi non è potuto essere cuore. Con noi. Ladro. Di nuovo. Ma perché secondo me non è. No, sta ruolando, è invisibile. No, è altro non sei visibile. Come mi ricorderò sempre la cosa che mi fa vedere dei manuali classici che da Master consiglia. Se volete rendere la cosa più credibile, con l'invisibile mettetelo sotto il tavolo. Mi sono fatto ridere. Se così non è. Tipo. Terremo questo per. Questo è il vero riassunto della puntata perché. È stata sempre maligna quella del master però. La sto facendo prendere. Vabbè, sta a me. Attacco il primo zombie che. Magari volete sapere come siete posizionati. Magari lo butti giù. No, lo attacco. No, vorrei dire, ma Salah ha svolto il massimo del ruolo che poteva fare. Ti ha ricordato la lancia. No, scherzi a parte. Attacco. Giulio, mi attacco il primo zombie. Scherzi a parte. Andre, mi detti. Vabbè, sì, ha giocato il suo personaggio. E fai giocare il tuo personaggio a mezzo. Allora, regalo il personaggio di Giulio, sì. Non è che mi si spegne il monitor mentre guardo. Se si spegne il personaggio di Giulio, no, allora copia e incolla il VR. Perché con la sua mi sfogo alla città. Classe armatura 8. Tecnicamente può prendere fuoco a uno zombie e poi lo butto dentro la città. È già ferito lo zombie su cui mi sto lanciando. Non credo, fa vedere. Ma gli fai danni? Cioè lo colpisci quindi? No, è fresco. Vederti. Cioè tu ti sei dato il cazzo perché era una cosa lunga, se cominciamo a fargli danni agli zombie ancora più lunghi. Però almeno si sfoga, capito? Ah, sono. Allora. Tu li stai attaccando con dei danni taglienti. Slashing. Sono 15, 21. Più 12, 33. Morto. Sbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No. Hanno 30 punti. Ah, io avevo capito 50. Se vuoi glieli do, però. Ma mi c'è da essere un po' complicato. No, vuol dire che qualcuno l'abbiamo quasi già ucciso. Garrosh. Il mio problema è un po' diverso, perché sono circondato in questo momento. Lui ha appena ucciso quello dietro di te. Hai visto un'esplosione di carne? Sono davanti, di nuovo. No, sei circondato perché comunque. Quindi sono davanti, sono comunque circondato. Esatto. Quindi che cosa devi fare? Dimmelo. Qual è il movimento corretto? No, in ogni caso alla fine farò un passo indietro. Un'interrogazione. Garro. Va bene. Sì. Garro. Beh, no, non è detto. Atena si è rotto il cazzo, quindi adesso chiunque è davanti non maciulla. No. Anche te sei rimasto. Vabbè, a questo punto sì, sì, libera spazio. No. Allora, vabbè, dai, lì fai il danno allora. Merda. Fai quel cazzo. Io vado avanti come un frullino adesso. Ah, sì. Un Beyblade. Ma andiamola pure a far culo la tattica. Chi cazzo ne frega? Grazie, dai, funziona l'app di Unicredit. Era sarcasmo o non capisco se non mi prendi. Vabbè, mi faccio danni. Tu fai quello. Se non mi connetto dove fai. Quindi. Vabbè, 23 a colpire. Deve aver problemi. Niente. Non lo so. 11 danni. Mm-hmm. Mi faccio un altro attacco. Funziona. Non so, non è caricamento. No. Quindi si fa un attacco normale. Sì. Facile. Vabbè, non mi connetto internet. È basta che non fai uno. Allora, mi dai le password dove fai per favore, ragazzi? 11 di nuovo. È una magica, no. Non so se cambia. Capito per voi. È nido del carro o è infostato 2,4 cambia, GHz, cambia che 9, tipo 3, di danno 5, è? 7. Beh, è per 40. 40 no, quindi, ma è nido del carro. Sì, bravo. Quindi lo infilzi, ma lui rimane integro. Le sue membra rimangono attaccate. Tu hai fatto 33 perché hai tirato bene o... C'è stato anche altro con i D8. Ho fatto... 8, 7, 6. Cazzo, faccio un passo e questo era. Ok. Cazzo, stavi per fregarmi, pensavi che mi dimenticassi. Immagino due passi perché dietro di te c'è. No, c'è un quadretto. Un c'è il quadretto di quello che appena ucciso. Esatto, è quello che ci sono. Che non è tanto vuoto visto c'è una poltiglia smembrata. Quindi non posso fare più di un passo indietro. No, puoi fare tutti quelli che vuoi perché lui puoi passare attraverso e togliere le altre. Io posso anche muovermi, allora posso lo fare spingo un di sotto. Al massimo tanto dopo io ho la possibilità di rifarlo. Lo spingo di sotto. Mi torno indietro di 35. Uso la mia reazione per spingerlo di sotto. Sapevo Giulio mi si spinge. Se serve cammino sulla parete. Adesso abbiamo Giulio. Se serve posso camminare. Non serve perché fino a prova contraria sono nel caso poi alleati. Posso dopo fare anche quelle immediate. Effetto contrario vale come caricamento. Io che posso camminare. Sì. Anzi, prova a vedere se puoi fare quello immediato. Per farlo, ovviamente, farlo, il povero malcapitato ti fa un attacco posso. D'opportunità. Posso che ti manca? Prova. Facendo. No, immediato. Questo, sfortuna. Cioè, il bonifico è immediato. Okay. Alcune bianche lo possono fare. Allora, tu sei al 180° piede. Vediamo se le poste sono una barra di serie A o di serie B. Arci non ha le poste. Sì. Arci ha Unicredit, ma è Unicredit se lo permette. Okay. Adesso però, sai già che se le poste adesso non lo permettono, riesco del cazzo. Capito? Vabbè, se vedi fa fare un bonifico normale. Prova a fare immediato. Ah, dici. Eh no. No. Perché sono quello di Andrea è un conto delle porte. 55. La pola, serie B. 170. Sì. Vabbè, le porte non sono. Sono a 70 piedi da te. La seconda ho bonifico. Due entri di blasto. Ho bonifico normale, ragazzi. Uno di 30 passeri di mezzo. Okay. Forse Giulio avrebbe dovuto scegliersi una banca. Io non c'entro niente. Non c'entro nulla io. Sto facendo io pagare in sulle poste. 22, non c'entro nulla io, cosa c'entra la banca mia? Non sto facendo la banca sulle poste. Scusa, sì, ma c'è non c'entra una nulla, discussione non sto facendo nulla con la mia madre. Sistemi informatici. Lui sta facendo delle banche. Il bonifico sul conto di Andre. E che banca è Andre? Non lo so. Che cazzo è so? Fa vedere. Dal Libano risale alla banca. Dal Big Swift. Sì, è vero. Potrei. Cioè, in realtà se sapessi anche dal CADA. Il T23U0202. No, è questo. No, questo vabbè, è. Magari non diciamo Libani in diretta a caso della gente. Va bene che non ci segue nessuno. Libani, per favore, però... Vabbè, cioè Libano. È il mio Diban, se è un credito. Capito? Però esatto, adesso metti i nostri Liban che si perché non abbiamo già il link fatto di donazione. Sei tu che. No, quindi non rompere il cazzo, penso. Va bene, povero Marco, stavo cercando di fare qualcosa prima che lo interrompessimo. No, devo farlo. Secondo me puoi fare. Sei tu che non. Anzi, secondo me. Da quale dei due? Beh, ce n'è uno che ha 1,79€ e uno che ha quasi 9.000 euro. Direi che è l'altro. No, cioè, beh, se uno è fai il bonifico da darci a me. Grazie, costa più il bonifico. Esatto, l'altro è la Genius che vuole. A chi sta? Marco che sta facendo una cosa. Vedi che non sta. ho fatto 6 anni, ho comunque quello è un credito in mezzo e il rap ha fatto 18 per okay. Lo puoi fare, ma dovresti poterlo fare. A parte che vabbè, un credito è in giornata sempre, però è hai detto 46? Di... Va domani. 6. Ah, 6. Hai mancato con uno? Con uno ha fatto 8, che altro che filiale 22 e 22 ha fatto 6 di danno. Guarda che lo vedi anche con dopo lo vedi la filiale. Sì. Ah, io spaventa passa. Dopo viene fuori la filiale quando vai avanti. Ci sta bene. Il ratto trova il libro. No. Ah, è vero che c'era anche sto. Ma è troppo pesante per il ratto per trasportare. Su questo non ci sono dubbi. Però, non so, magari il ratto è un ratto erudito. Un ratto di biblioteca. Può leggere? Un topo di biblioteca. No, cazzo. E questa è la sfortuna. Ti ha svuotato il conto. Beh, fanno svuotarmi il conto. Giulio. Cosa c'entro io? Stavo facendo un bonifico da 8.000. Vardistran, ora tocca a te. No, non è vero. Se vuoi puoi ritardare. Ho già scritto io, mi sono detto cazzo. Ho fatto un errore, Arci. L'ha svuotato il conto, Arci. Mi spiace. Un errore da pivelli. Allora, e lui lavora in banca. Io posso colpire qualcuno. Già con quello che paga la tua banca di merda, invece bisogna che mi svuoti il conto anche a tradimento quando non sono lì. Sì, in fondo salva state. Gag a parte, no, è vero che Unicredit deve alzare i prezzi perché c'è il fondo interbancario. Come si chiama? Dovrebbero essere gratis, beh. Ce l'avevo gratis fino a 20 secondi fa. Lo stai facendo con il mio account, per favore. Sto donando tutti i tuoi soldi attuali e futuri a Unicredit. No, sta facendo un modifico a sé, per poi girarlo al suo un po' delle spese che Qual era quel film dove il tizio soffiava un fischio nel cellulare e sbloccava cose? Hai già fatto. Però c'è un film. Cioè, finora cos'hai fatto? Devo metterli in porto. Infatti, tre ore per metterli lì. Ho sbagliato dove metterli. Cioè, non ho fatto un caso quindi. C'è un film in cui tipo facevano un programma. No, dopo tutte le transizioni che c'erano per questa banca. Step dopo l'imposta. Non i centesimi, tipo i decimi centesimi. Venivano accumulati tutti in un conto. Istantaneo, ma comunque quasi istantaneo con arriva domani perché comunque. Ah, per l'orario. Posso attaccare qualcuno? Attaccare. Ho finito di digitare gli IBAN della lo zombie che ha ferito. Filiale viene fuori. E... gli ho fatto 22 danni. No. Allora c'è il naso dappertutto. Il mio conto lo diamo. Cerco di colpirlo, però. Quota, pale. Sì. No, 17. Non è quota pale. Cucchiaia, 2, 40. Giù. Tipo 8. Marci. Di nuovo lo spadone. Spada, sparisci. Era un 2. Una canzone. Ricordiamo che questa è la tua prima operazione di bonifico istantaneo. Mi ricordo che è la prima operazione. E non sarà revocabile. Eh sì, è così. Verifica dati e me li confermare. E c'è un altro davanti, no? C'è un altro dietro di lui, c'è un altro. C'è un altro. Questo. No, Vez, commissione, commissione bancaria 6,25€. Sì. Prova contrapposto. No. Allora non farlo istantaneo. 6,25€ sì, per un bonifico. Perché io li ho tutti gratis. Provo a spendere. Che merda da vita. No. Che merda. Che falso la storia. È per falso, la gente, tutto per la gente. Posso. Vabbè, così imparato una cosa nuova. Hai 17. No. Sì. Perché non hai attaccato e sei volevo fatto buttarlo il passo giù. E quindi adesso lui... Dal Liban, Giulio, perché questo è handicappato, mi ha fatto buttare giù. No, scherzo. Non riesci a buttarlo giù. Se me li stessi stampando io, me li avrei fatto prima. Faccio un passo indietro e prendo l'attacco tutto. Esattamente. L'hai dato a Giulio. Dove sei? Il T23 U02 008 un'unghiata 02 455 000 42 015 75 25. Se dite anche l'indirizzo e il numero di telefono. Perché non era? Vabbè, tanto lì banche che lo so, ho capito. Ci fanno i tanti danni a mezzo. Se volete fare un bonifico da Andrea Cosentino. Fatelo a questo nuovo IBAN di Andrea Cosentino. Fatelo a questa, esatto. Ah, salutiamo Francesco Evangelisti, Alessandro Ginimusi e poi una persona che mi sta molto a cuore, Giulio Bosco. Pausale. Scusami, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che non hai salutato, è molto grave. Sì, ma una è catta che è qua. Appunto, va salutato. Giulio non è qua, mi fa piacere salutare. Ah, giusto. Allora, starebbe a Race. Scusa, ma la gira non ci segue più. No. Divergenze creative. No, è eravamo lì per ospitarla. Allora, Venezia, la banca è Bologna Santo Stefano. Lei si cala. No, è la mia. Non è possibile. È la mia. Cioè, dove hai il conto? Dovrei io ce l'ho in Ugo Bassi. Quella di filiale beneficiario Bologna Santo Stefano. Quindi quello lì è il mio cab. Non ci ho mai fatto caso. Che ironia. Lavoro in Unicredit? Ci guarda. Bene, commissioni bancarie 0-0. Race si cala dalle mura per un bonifico, all'interno e si dirige verso la casa dove è precipitato. Con riferimento alle informazioni della privacy, si informa che le commissioni bancarie verranno ricevendo il conto di Andrea Giacomo Vecchi. Ah, ecco perché! Tanto sono 7-0, quindi no. Non istantaneo ti arrivavano 6 euro diretti sul tuo conto. Grazie. Sì, c'è un bonifico. Va bene, hanno zombie. È vero, abbiamo lo stesso club. Conto più personalità, però questo non è abbiamo lo stesso capo e la stessa filiale, pazzesco. Io te? No, io e. Buttato. L'ho aperto qui. Neanche il mio. Tra l'altro ho scoperto che ci sono. Raga, potete farvi il vostro party della filiale. Ah, ecco perché non cazzo, perché mi è partito la mi spartite le tasse di dicembre. Grazie, governo italiano. Se volete sponsorizzare, non credo funzioni. Giusto sulla licenza. Allora, potrebbero altro, vestire altro ieri a TG1 hanno fatto un servizio su Dungeons and Dragons e ne hanno parlato anche bene. Allora, hanno parlato bene. Vabbè, non siamo più negli anni 50, ragazzi. Allora, 23 minuti fa, Jacopo Santarino ha messo mi piace al mio commento. A parte mi piace qualcos'altro da. Sì, ha messo mi piace a dei post di stack. Jacopo Romano, Trifolo Romano. Che bello il necropost. E al posto. Il diario di Vabs. Sì, stavo parlando di andare al cinema. Cosa devo fare? È il mio turno? Io stavo continuando. Io avevo ancora la palla di fuoco da spostare. Sì. Avevo la palla di fuoco da spostare. La sposto. Astros. Anzi, no, era già la base di quegli stronzi. Quindi. Quindi prenderanno danno all'inizio del loro turno. Sì, però scusa, quando me ne hai fatti mai tirare, cazzo? Alla fine del loro turno. È vero. Ma anche l'altro non l'hai mica tirato, secondo me. Alla fine del loro turno. L'altra volta fino alla fine del turno. Che non hanno tirato secondo me gli anni. Tirali. Tu li credi veramente? No, è vero. Beh, è poco influente in questo momento. Ma sono anche prendere danni doppi. Tirate i riflessi, Pet, no. Ah, è vero. No, non lo fa più condividere. 14. No. CD 8 più 3, 11. 14. Non lo fa più condividere. The damage is 9 danni. Quindi diventano 18 per chi non li passa. E 9 per chi li passa. Dai che. Scossa l'albero delle luci. Grazie. Ciao. Pensi che me la butti nel culo questa? Ah no, esatto. E poi faccio anche un raggetto. Cantrip. Cantrip su. Riesco a mirare quello stesso che ho bruciato per adesso che ho beccato 18 danni. Quanto era della scala? Non so quando è agitato, stanno 120 piedi. Produce flame? No. Non era proprio il fan. Credo di sì. Sì, forse sì. Yes. No, oh, è due. Produce flame, cantrip del druido. 120 piedi. Una creatura a 30 piedi da te. Cos'ho detto? Tu sei a. Posso muovermi però. Al 120° piede. Fai i tuoi 30 piedi, arrivi al 150° e loro sono al 280°. Quindi hai 80 piedi. No, vabbè, allora no, su un altro zombie, c'è una cosa che becco. Cosa posso beccare, capo, da lì? Uno zombie. Fai un dardino su uno zombie? Vabbè, se no uno c'è uno zombie mezzo morto. Adesso no, si spaventa passeri giù. O uno spaventa passeri giù. Sotto è pieno, quanti ne vuoi. Sulle mura? Sulle mura, te l'ho detto, sono a 200... 50 più pasca da 120 arriva a 100 piedi da te. Ah, quindi non becco nessuno io? Cioè non c'è nessuno in range? Quelli sulle mura, sotto quanti ne vuoi? La scala dei cosi? Mm-hmm. È lontano. Ma cioè sono ancora a formazione scala? No, spaventa passi. Non ci sono abbastanza tutta. Ah no, sono questi, li erano già feriti questi. L'ultima. Sì, li avevo fatti i danni, sono qua. No, ok, qualcuno sì, perché li avevo anche... Perché li stavo inseguendo con la palla. Quelli con la palla li avevi fatti. Sì, ma è già due round che sono lì. Non mi È da un po' che la palla è lì sotto questa stessa scala. La scala è ancora... La scala la, sì, è ancora su. Adesso, e per adesso gli zombie che c'erano sono saliti tutti, quindi lentamente quelli che sono rimasti sotto, che erano della seconda scala, stanno pian piano arrivando alla terza per salire. Quindi Patk, tu ti avvicini ancora, puoi usare anche l'attuazione per avvicinarti a questo punto, perché suppongo che... quella che posso usare, sì. No, però volevo lanciare un giardino. Se li vuoi lanciare a qualcuno sotto le mura, sotto puoi. Vedo un spaventapasseri. Gli spaventapasseri stanno... Sono tutti in forma scala? Sono in forma... questi sono morti, sì. Quindi gli unici che ci sono in forma scala e li sto già bruciando. Esatto. Sono solo 5. Allora sparano zombie a raglio, c'è uno zombie un po' mezzo ferito, no? Sì. No. Sì. Quelli che sono caduti, avete fatto cadere giù. No, uno di quelli che vedo con le gambe all'aria. Boom! 16. Colpito. 2 di 8. 16 di 2. Ti do una mano. Spazio che fai tanto, sono ormai. C'è un ormaggio. Boom! 13 danni. 13 di danni. Non so, esatto, no. Sì. Dai, leccato allora. Allora, com'è la scheda mappa? Un po' alle spalle. Devo abituarmi alla visita di Paris. Non l'avevo mai usata. Ah, te l'ho messo? Te l'ho fatto tutto a colpo libero per il discorso del polso. Ma è meglio. Sì, stava. Adesso che ho fatto, diciamo, uno scudo di base. Che mi... Sì. Sta a iniziare con il finale e poi passare. In questo momento sentite attraverso di voi una... come si dice? Venite attraversati da uno stormo di creature puzzolenti e sbavanti. I mongrel che aveva chiamato alla donata, okay. Che arrivano e si gettano addosso agli zombie cercando di buttarli giù. Purtroppo non sono molto istruiti, quindi i risultati potrebbero variare. Quindi i 10 mongrel che Dez aveva chiamato cominciano a buttarsi addosso a queste creature mefitiche e putrescenti, e delle 3 che erano di fronte a voi, per via proprio della loro massa, se... proprio per via della loro massa perdono l'equilibrio e se li trascinano giù dalle mura all'interno. Oh, però beh, vi hanno tolto 3 zombie dai piedi. Via, sì. E una volta che cadono al piano di sotto cominciano ad azzuffarsi, ed è un tripudio di arti che volano, pezzi di cane e latrati. E, detto questo, gli zombie che sono sulle mura invece si trovano qui, addirittura a questo punto. No, non è possibile, questo è un 3, esatto, perfetto, che e si muovono di 20, perfetto, quindi utilizzano il loro movimento per arrivare a voi. In realtà non a voi, perché avete furbescamente mosso, esatto, un passo indietro, quindi non vi possono nemmeno attaccare in questo turno. Per cui questo diventa 2,90 3,30. Qui è sollevato, però questo lo tiri giù e ti fa tipo da... no? Va lì e va a questa altezza e ci vai sopra in ginocchio, non in piedi. Si può ingrandire sta merda. Sì. 2,90 e... cioè va a questa altezza. Gli spaventapasseri prendono i danni. Fanno un tiro a salvezza. cazzo di macchinari hanno? Si parla di così. Vai Arci, uno passa e uno no. Hai fatto a cuscino. Arci. Dimmi. Grazie Marco. Uno lo passa e uno no. Ha! Nannana. Nannina. 9 danni, che vera? 18 perché non passa, ma più che passa. In più sparo il dardino su una... Oh, vedo una bella trine. Che scatta qualcosa? Sì. Uno muore e quindi la lo scala so. Crolla. Ottimo. Focus su un altro zombie. 4 più 6, 10. Lo becco. 9 danni avevi fatto quell'altro. Sì. Sì. 10 lo becco? Sì. Ah, non è un cazzo di CA. No, boom, 8 danni. 8 danni. A quello che stavo focussando prima. Perfetto. Danni da fuoco, giusto? Sì. Sì. E questo era... Pat, che non so perché hai tirato con l'attuazione, perché dovevi solo tirare i danni della sfera. Non lo so, tu me... Marco, che cazzo dici? Vai. No, lui ha fatto bene a richiamarti. Però sì, c'è sempre sta gag che la sfera fa i danni alla fine del turno dell'altro. Ma per semplicità bisogna fare il mio. Cazzo di cambio. Perché lui, in teoria, ha la, così ha la possibilità di spostarsi. Se invece sta nel mio, così la possibilità non ce l'ha. Finisce, questa era la fine del turno, quindi sta Atanas. Attacco il primo che vedo. Vabbè, hai tolto i miei dannini. Cioè, il primo che vedo. Cioè, il primo essere vivente che il vedo. Il primo essere vivente che vedi, dove sei tu? Tira un dado per vedere quello. Potrebbe essere Garrosh. Potrebbe essere Garrosh. E dietro, e poi c'è anche Vardistran. Ah, allora potrebbe essere. Nel senso, proprio esattamente di fronte. No, perché tu sei andato avanti. Sì, è una cosa strana. No, no, è così. Infatti lo usano i cuscini. Quindi sì. Sei arrivato a 270. Ma che cazzo è queste macchine di non cazzo? C'hanno fior fior di ingegneri per fare queste macchine. È anche quella. Sì, appunto, tecnici hanno un botto di cose e fanno queste macchine. Ci arrivano a attaccare uno zombie. Sì. Io ti do la Coca Zero. Sono a 20 piedi da te. Intacco. Giusto, Arci. Che palle, 18. Tampoco non dicevo, boh, basta 8 per colpire. Di cosa si lamenta? 19. Lo so. Grazie, grazie. 10, 16, 28 danni. Oh, 28 danni taglienti. Sì. Ok, quindi quanti attacchi gli hai fatto? 3. 3 attacchi. Allora, vediamo che cosa succede. A Garrosh. Certo. Allora, 8, 19 e 11. Mm. Perfetto. Quindi il primo attacco taglia la gamba ad uno zombie e la gamba comincia a camminare a zoppo galetto. Il secondo, un braccio è tagliato e quindi diventa un braccio che è lì per terra e cerca di afferrare qualsiasi cosa abbia nelle vicinanze, e l'ultimo attacco lo decapita. Se la testa è danneggiata, lo zombie perde il suo morso chiaramente ed è accecato. Domani martedì vero. La testa può fare un attacco di morso, ma solo contro un bersaglio nel suo stesso spazio. Ok, quindi faccio un passo indietro. Fai un passo indietro, quindi ti becchi un attacco da qui. Da lui, un attacco opportunità da lui e dal suo braccio che hai tagliato, che adesso agisce. Non faccio un passo indietro. Vediamo se lui ti colpisce. Ma se di pomeriggio vedo gli acquoli anche tu. Hai tagliato la testa, lui ti manca, 18. A giocare e anche la mano ti manca. Se non riesco. Ok. Mi hai buttato via la cosa? Sì, io tengo dentro. Così faccio un'altra acqua calda e la ritiro. Cioè, dell'altra tirando qualcosa. Questo è la mollo di là. Sì. Ah. Cioè, l'ho tolta perché non la tieni troppo a mollo. Io carico. Guarda, la rimetto. C'è uno zombie con 2 punti ferita. Di solito non la tieni troppo perché sennò. Cioè, diviso in una gamba, un braccio, una testa. Domanda: se attacco lui e lo finisco, Poi posso fare un passo e sfruttare sempre il mio caricamento per andare ad attaccare quello successivo, o si annulla l'effetto caricamento? Perché tu dici, cioè io ti fermeresti e non avresti quella distanza. Carico lui, poi non so se quello dopo è subito dietro, non so se domani intorno a Natale considerare tipo 2000 calorie o finisco quel, cioè. Perché non puoi usare direttamente l'attacco bonus sul primo. Io quando carico faccio un attacco, poi se l'attacco va a segno, sì. O ho un attacco extra o lo spingo lontano. Ho questa scelta qui. Però non so se l'attacco extra lo puoi fare su quello, su quello dopo. Perché se no te la risolvo così. Se questo ha solo due punti ferita, lo lascio ai miei amici. Io vado su quello dopo. Oh, ma che voglio. Ma non puoi farlo, quindi attaccalo. E quindi? Quindi tipico di chiedi a dire. Esatto. Posso che siano i miei. Esatto. Quindi tu lo attacchi e mi dici cosa fai. Sembra che tu abbia intanto massimo 3 punti ferita, quindi 11, lascio che sia qualcun altro a ucciderti. E a questo gli faccio, vabbè, un D6 più 8. 14. Ok, quindi lo smembri. E il resto dei suoi arti si muore. E puoi proseguire su quello dopo. Con quell'attacco extra, grazie. Come sei buono. Cosa succede questo? Quindi prima raddoppio questo. Cosa raddoppio io? Dadi. I bonus dell'ira no? No, solo i dadi. Speriamo non le cazzate perché già sì. 4, 6, 8, 5, 13. Quindi 2 di 6 più 13. Oh, c'è il portato della radiola, grazie. No, no. Ora, bello fare critico, ma se poi fai questo, 15. C'è una cosa che ho di 15 più. E poi faccio il mio secondo attacco, quindi sempre su questo immagino che sia attivo, ma faccio 1. Benissimo, i miei dadi sono stati molto divertenti. Primo 20 e poi 3 1. Ma hai attaccato con cosa? Con la lancia? Sì. Sì. Ma non succede niente. No, non succede niente. Ah, ok. Mangia la lancia. E così ne va. Quindi lo spingo giù. Okay. No! Quindi sì. Non fai nient'altro. Un passo indietro. Bravo. Sì. Critico, poi 2-1 con i D6 e 1 tiro dopo. Attacco di opportunità. Ma perché lui non attacca di opportunità? Sì, adesso gli arrivo. Ma tanto non mi becca. No, perché lui non ha attacco di opportunità? Minimo fa 20. Ah, c'erano dei compiti per oggi, però. Ha detto che spiegava. Cioè, se tiri 20, sappiamo certo. Che è critico. A prescindere. Lui fa 17, ti manca. Ma. Garrosh, ma sfortuna. Poi il barbaro con lo scudo. Sfortuna, tocca a te. Il barbaro con lo scudo. Sta continuando a salire dalla scala. Beh, attacca la scala, non c'è più. Vale, siamo. Che puoi. Ok, allora uso la mia ultima magia di primo. Che sono giù. Fammi controllare. Sì, uso la mia ultima magia di primo livello per usare Fairy Fire. Fuoco fatato e dare vantaggio quando ci colpisce gli zombie sugli spanti in me, 40 me. Piedi sugli spanti E quanto dura? Un minuto. Cioè adesso abbiamo sempre vantaggio a colpire gli zombie. Lo mangio patatine. Devono fallire un tiro salvezza sulla destra. Se falliscono il tiro salvezza sulla destra, cambi il dato. 20, 45. Vedi, ti faccio una fatica per allenarlo, per dargli una scheda, per dargli una forma, e tu me lo fai diventare un barile dell'umido. Come cose. Bisogna integrare. Sì, aveva già fatto questa cosa. Sboccare. Non ho bevuto birra, però si vive, acqua. Si vive una volta sola. Appunto, perché farla finire a 40 anni? Io sono 40 anni, ma dai, sono. Avevo 40 anni, era il suo primo obiettivo, ora è già calato. Dimmi dopo cosa c'è di bello da fare. Stai scherzando, ragazzi? Dopo cosa? Dopo 40. L'obiettivo è arrivare alla pensione. Per noi sono a 70. Lui non c'è la 70. Anche se sono 80, poi dagli 80 ai 140 tu li passi a nerdare, a uscire, sì, andare a Troia, la serie di poi beh, tu ti sfugge questa cosa che dopo 75 anni se ammazzi qualcuno non puoi andare in galera, vai a domiciliare. Quindi puoi fare stragi, sono quelle cose che te poi ti bruci questa cosa. Ti perdi 75 anni non puoi andare in galera. È vero. A meno che non per terrorismo, se per mafia, ma se tu ammazzi per piacere. E non terrorismo. Se tu. Cioè, se tu fai. E né mafia, ovviamente. In realtà, uno se deve fare le cose. Se sei domiciliare, dovrai fare un unico. Potrei fare un'unica strage. Cioè, dovrei anche cercare di farla bene. No, perché poi da casa puoi sparare. Al terrorismo. Cancella questa puntata. Nino, Nino. Vedi il bug della giustizia. Immagino 75 anni. Non avete prova che io sto tenendo la puntata a 30 anni. Dannazione. Il primo ha passato il tiro a salvezza. Se spara, i tre dietro però no. Ok, ma quanti anni ha? 75. Fine turno. Mi spiace. State attenti. Stai fermo o ti muovi? Sto fermo. Ok. Guardi strano. Non ce l'ho più. Cosa fare? Vai. È ferito questo? Sì, a mezza vita. 20 per colpire. Wow. Ho sprecato 16 danni. Mm. Non lo so in realtà. Hai segato preciso. Ah. Allora, perfetto. Si è rifatto dei miei due di prima. E poi c'è un altro, no? Esatto, questo dietro sbarluccica di polvere magica. Tanto ne mangio, che c'ho vantaggio. Esatto. C'ho vantaggio prestigioso. No, a colpirlo. Pesa uguale anche se sbarluccica. Che il ragionamento è. Mi spaventa questo fatto che sbarluccica. Effettivamente prova a colpirlo, così dopo mi può colpire. Hai vantaggio. 14 giù, se cosa sarai contento. Hai vantaggio. Sarai contento. Chi è che sbarluccica, scusa? I tre zombie dopo di questo. Magari ci venti. In che senso? Non hai fatto un 20. Lui ha fatto fire, fuoco, fatato. Ah, ok. I miei dadi non fanno 20. E quindi questi tre zombie sono capaci da colpire. 14 danni. Sprecato. 14. Ma noi lo sappiamo. Per il piacere di Giulio. Tecnicamente i nostri personaggi sanno che ha un suo effetto. Boh, lui ha detto delle parole, ha fatto un po' di magica bula ed è arrivata sta polverina sberluccicosa. No, perché se no potremmo pensare, oddio, che cazzo, non scappiamo. Allora, questo era Vardistran. Devo fare un passo indietro, mi sa. Bravo. Cosa facciamo? Gli lancio il solito dardino? Però vantaggio stavolta, vero? Ti colpisce Vardistran. Ha vantaggio, vero? Hai vantaggio al colpire 3 danni Vardistran. 3 più 6, 9, colpisco. Qua però quindi vantaggio. È colpa tua questi danni, giusto? Non puoi più la folla. 12 danni da fuoco. Sullo zombie e. Ah no, il fuoco me lo tiri quando è che lo tiri tu al loro turno. Ah, sicuro. Giusto? Ma spera, sì. Alla fine del loro turno. Sono ancora lì? Il tizio sì, sì, perché sì, anche Giulio. Devono ancora girare. Quanti danni avevi fatto, no, scusa, lo zoom? 12. Ah, come hai messo? Lo stesso che fu usato prima, Come lo stesso che fu usato prima? Non è morto. Non è, allora un altro. Non hai attaccato quello che ha attaccato Dez. L'ho ucciso. Quello dietro. Attaccato uno che è mezzo moribondo. Io sto sparando ai rimasugli per... Attaccato quello che ha attaccato. Ma scusa, hai tirato giù i... Sì, ce ne sono più. Cioè, ce ne sono ancora, ma non abbastanza per la scala. Ah, allora qui sì, sono ammazziamo in questi, hai ragione. Ammazziamo questi due. Ok, ma ridotto. Continua la zuffa tra i mongrel e le zombie al piano di sotto. Aiutate i mongrel. Uccidiamo i mongrel. Dai, ormai sono rimasti in 12. Abbiamo ucciso 50. Non ha senso tenere questi 12 in vita. Sono giù i 12. Una volta eri uno di loro. Ma non più. La 12 mongrel. I zombie. Guarda che servono. Potrebbero essere i nostri alleati. Saranno l'ango della bilancia contro le 6 progenie vampiri che ci aspettano. Davanti chi c'è? È probabile. Ma è strano che il movimento hai fatto. 265 si è andato indietro. Ho preso attacchi. Sì, ho subito l'ira di giù. Ma adesso tocca loro attaccare qualcuno. C'è una cosa che vale di più. Quindi attaccano Garrosh. Giusto. Ti manca. Oppure ho fatto dei tiri di merda. I 4 spaventapasseri sotto. Due bruciano un po'. CA, CD. 14. Quindi uno. Uno sopra e uno no. No, forse tutti e due lo falliscono. Tutti e due falliscono e uno no. Esatto. Tanto fatto. Questo cos'è? 6. 6, 2, 8, 8 danni. 8 danni, quindi 16. Uno muore, uno. Ha tirato questo, fa. E cosa vuol dire? Cos'è? Va ridotto. E neanche l'intero. Cos'è il 6? DNG, dammela go. Quindi Garro, Chatanas e Vardistran, tiro salvezza sulla saggezza. Oh, che era un po' che non finivo paralizzato. Abbiamo più 3. Avete tu più 3. 13. Pietro. 14. Oh, basta. 14. Mi sa che male che ha fatto il passo indietro. La CD era 11, quanto hai tirato adesso? Ha fatto 3 col dado. No, 9 complessivo. E io ho più 6. Vorrei far buttare. Ed è la terza volta su 4 che io la prima è che supero. Però no, sono fallito. Ok, Atoras. Dolce di che? Il frullino contro. Ah, aspetta, c'è uno zombie che dovrebbe essere tipo me. Ah, è mezzo morto. Vantaggio. È mezzo morto. Per fortuna. Vabbè, ha tirato in realtà prima questo. Che lo vuol dire? More. 5. Attacco quello quindi, dietro. Aspetta, quanti sono qui? Questo è morto. Quindi ne rimangono due sberluccicosi e quattro normali sulle mura. Quello dietro, che è sberluccicoso. Sotto quanti sono? Quelli, i due dietro sono ancora. Allora posso ancora lanciare uno spiedino. Tipo caricare, ma. Cioè, forse quella da cavaliere, forse. Non c'è un certo punto che anche 18 sono. Sì, però tipo a livello 18. Quando si livella, sai, questa cosa. Sai, guarda che anche il master ti dice, ma scusa, ormai non dovresti no, avere. La fa faccio un passo indietro. Faccio un passo indietro. Guarda che ti guarda, ma 16 danni slash. Ma stai preparando, mi ricordavo fosse forte, sì, dal decimo in su, carta. Quindi questo gli tagli un altro braccio, quindi no, ti arriva l'attacco d'opportunità suo e del braccio. Basta. 16, 19, 18 ti colpisce? Sì, 18. Okay. Magari con uno scudo. Perché? Gli tieni un più uno per la prossima volta? Cosa fai? Hai fatto 19, 18 ti colpisci, tengo 18, tengo un più uno per il prossimo. Perché 15 più 3, mi sei risulta faccio 18. Quindi sono valore complessivo che 8 danni. Tanto. Tutti e due gli attacchi hanno colpito. Sono sì, due 7 danni di media, fatto un tiro un po' più alto. Uno non ha fatto. No, il braccio ha attaccato. Cosa? Ha attaccato il braccio, male. Il braccio ha attaccato. Garrosh. Il braccio e un altro braccio si è tirato su per il cuore. Okay. Vabbè, e continuo ad attaccare, quindi carico, cioè rifaccio, non so, dimmi tu da che distanza sono. È quella giusta. Basta che sorpassi me che sono così un vantaggio sì perché colpisco quindi 6 più 8 14 rimane uno sberluccicoso e dietro 4 normali posso sfruttare l'attacco extra sì. Non la sassi deve lanciare meno male perché c'era uno. Colpisco 15. Ok, ti faccio il mio ultimo attacco. Dai, dai. Colpisco 14. Fanculo più 15 fa 29. Maledetto, maledetto. E vai un passo indietro. Esatto. A un punto ferita questo. Ti manca. Il restante. Sfortuna. Grazie. Io Eldritch Blast ha qualcosa. Allora, quello davanti a me non dovrei dirlo, però. Beh, è messo molto male. Adesso vedo tipo il barbaro che fa. Da una tinta osservazione. Vabbè, ha tirato una sagagnata e vedo che ha messo male. Contro chi? Bello. Spaventa passere. Allora, spaventa passare. Ma in realtà ci sono due sani e uno ferito. Fregarsene di quelli giù. Una volta che non riescono più a salire. Tanto perché non giochi per LOL. Non gioco LOL da una vita. 25-24. Che cazzo gioco? Peccato. Adesso gioco un sacco ad Erston. Merda, te l'ho data così al ginecologo. Figo. Non ho. Non gioca con noi, credeva. 19 danni. C'è anche Sara. 19. Giulio. Muore. Vez. Cosa? No, mi aveva incuriosito la modalità. Tra adesso vedo Cattasbrug. Sì, intanto si gioca così. E hanno fatto la mappa nuova con i draghi che cambia. È venuta strafiga. Fa molto più dinamica. No, ero curioso della modalità. Come si chiama? Battleground. Ah, già, facciamo finire sto cazzo di combattimento. Sì, esatto. Ah, Teamfights. Teamfights, esatto. Che non vorrei fare un'altra sessione. Merda. Se tu Giulio li ammazzassi invece di piangere. Faccio. No, stavi scappando dalle cure tutta la sessione. La scorsa. Vabbè, Vez non ci è. Ci siamo, Giulio si è rotto il cazzo. Siamo arrivati al punto C. Tocca a Vardistan, che è paralizzato. Quindi. Ancora me? Focus. Se vuoi saltare. Attacco, ho vantaggio. Fight, focus. Comunque. Anche un 4 beccai. Ma posso crittare? Rollo. Vabbè, magari pesato. Rollo. Oh! Ha fatto tipo una punto ferita. 9 danni. Vabbè. E la scala? Dalla scala la palla? La palla si sono allontanati dalla scala. Quindi non c'è nessuno lì. Non c'è nessuno lì. Dove li vedo diretti? Perché posso muoverla? Sì, uno si sta dirigendo indietro verso la foresta e uno sta percorrendo domanda, il muro. Se brucia la foresta. Scusa, ma se li porti su? Se la porti su? No, brucia la foresta. Sul muro? No. Non c'è una porta in cui qualcuno vuole accedere o cose così? Sono delle mura. Sì, vai, brucia la porta. No, c'è una porta da qualcuno. C'è la porta. Sulle mura, dici. La porta a un certo punto c'è. C'è il portone da dove siete partiti, 200 passapiedi fa. Beh, non stanno cagando gli altri. Vogliono solo salire sulle mura e non hanno le scale. Quindi che cazzo stanno facendo? Non sanno cosa fare. Non possiamo né scendere né salire. Mando la palla un po' in mezzo a rompere il cazzo. Ok. Va bene. E il bolchino là è andato. I zombie. Quindi. Sono ancora. Squatto sulle mura. Ci siamo quasi. Mera, io li sto ammazzando come fossero ciliegie dall'alto e voi non riuscite a uccidere questi tre stronzi. Aveva un punto ferita perché gli ho fatto 29 danni in un turno. Non è che l'hai ucciso. L'ho fatto esplodere io. Beh, finora ne abbiamo uccisi 4-5. Sì. In realtà ho due a turno li uccidiamo. Beh, non stai entrando primo, Vabbè, sto turno era paralizzato. Perché sei paralizzato, te, Vez? Perché non ha saggezza. Ma chi ti ha paralizzato? Gli spaventapassi. Cioè, dice che è un paladino con carisma, saggezza. Vez, ti sei fatto paralizzare dai spaventapassi bruciati? Rega, è tipo la terza volta su 4 che non tiro 3. Quando lo fa quel tiro lì. Sembra Charizard che si fa paralizzare da Bello Sprout. Quindi Atenas. Attacco uno zombie. Questi però sono normali. Mi sono rotto il cazzo di voi zombie di merda. Tra l'altro abbiamo perso Zombieland 2 al cinema, grazie a te Giulio. Non è vero, sono passato di cazzo. Vero Vez che non è andato a vedere Zombieland per aspettare Giulio. Non è vero. A parte che l'hanno fatto in pochissimi cinema, solo pochissimi orari, infatti non sono riuscito ad andarci per quello. Grazie a Giulio. Che cazzo c'è? Sì, veramente. Cioè, 20. Tre attacchi. Sì, si vede che non è che... No, è che non sono che guardo. Con Giulio con questo... Abbiamo avuto l'occasione. 11. Quando siamo andati a vedere Joker... Ma non è preferito andare a vedere Joker? C'era la maratona. E per un momento siamo stati tentati. L'hanno fatta? È andata a maratona. Non sapevo. Siamo stati tentati. L'hanno parlato. Gli tagli le braccia e lo decapiti. Quindi questo gioco è finalmente. Quindi nel suo quadretto adesso c'è una testa e due braccia si muovono e il suo tronco che cammina senza poter fare niente. Faccio un passo indietro. Va bene. Garrosh. Attacco di opportunità. Hanno fatto abbastanza danni. Ho capito, lui l'ha detto a me, io dico a lui. Ho capito. Amici infami, allora, ti mancano. 15 ma... ce li hai di base armatura, sì, sì. 18. Ma va. Garrosh. Ma ho ancora del vantaggio. Sì. No, il vantaggio no, è... sono morti. Ma... posso sempre caricare? Ho tu dato. Pazienza. Piccolo 14, vado sempre 16. Piccolo Diedro. Piccolo Garrosh. Garrosh. Aspetta, 14 l'hai ucciso. Ah, allora faccio dopo, scusa, fermati, fermati. Li prendi per buoni, avevo già tirato sì, entrambi sì, i dadi. Vai, vai, vai. E sono no. 20 danni. Devi ritirare. Okay. Vedi la bar. E fai un passo. No, aspetta, è il mio secondo attacco, questo era l'extra. Ah, era il primo. Aspetta. Ah, era l'extra, ho fatto il primo, okay. Poi l'altro, poi quello normale, colpisce. E sono altri 12 danni. Muori. Io ne ho uccisi due in un turno. Grazie, uno di vita. Vai, sto pezzo. Ma veramente il secondo era nuovo. Merda. Sfortuna. L'ho fatto un passo indietro. Di quindi attacchi di opportunità. Perché in realtà no, un messaggio al mago per sapere se è ancora vivo. Ok. Su WhatsApp. Dato che so che è dietro al muro, posso inviare il messaggio. A chi? A Casimir. A Kevin. Invii il messaggio, lui può rispondere, no? È morto di infarto, se è cosciente, immagino che possa rispondere. La sua risposta è aia. Fatturato perché hanno fatto il messaggio. Aia, aia. Ok. Ma perché non stiamo guardando? E tengo l'informazione per me. Cosa inquietante. Voglio vedere qua la testa cosa hanno fatto. Ok, Vardistran. Oh! Quando è che ti sparalizzi? Adesso. Alla fine del turno, del loro turno, turno successivo, ho già fatto quindi... un turno di paralisi. Sì, ha saldato quello scorso. Sì, ha saldato già un quindi turno. Quindi sei sparalizzato. Quindi tira sulla saggezza. Cosa fai al tuo turno? Dai, finiamoli, manca un po'. Quante ne manca? Due. Allora, oggettivamente, dove provo ad attaccare? La tiralo giù, se no, è indifferente, tanto... No, basta, uccidilo. Ho vantaggio? No. No. Con cosa stai attaccando? Spadone. Ok. 13 danni. 13! Con un attacco. Con un attacco. Quindi sono... 18. 17 a colpire. 15. 4. 15 danni. Vabbè, 4. Ne fate 15. 14. No, 29. No, 13 più ah, 13. 28. 28. Un po' corto. Beh, vabbè, però ho tirato complessivamente bene. Sì, sì, sì, no, però che sfiga per due. Sì. Ah, 6, 5, okay, 6, tagli 3, una gamba e un braccio. E vado un passo... Avanti. Avanti. Ma io faccio ti attacco. Un passo ti avviso che io ti attacco. Ti colpisce con entrambi. non hai lo scudo. Quanto che sia? 16. 5 danni. Complessivi? Sì. Vai. Tipo si vede tipo. Quello che guardo, tipo Frodo con l'anello. La mia kill. Salto voltino. Sì. I bubi. Vantaggio. No. Ah no, 6, 2 più 6, no. Oh. Colpito. No, ingiustizia. Oh, 15 danni da fuoco che muore. Ma non direi che questo era quello da due punti per no, era full, ma beh, sparavo a fulli. Ah, ma quelli fuori sono scappati, quindi. Quelli fuori sono lì sotto che non sanno che cosa fare, c'è chi torna indietro nella foresta, c'è chi e gira intorno, c'è chi... quelli ex. Tanto... No, non gli sono a distanza, in teoria sono fuori range. Qui sulle mura, hai detto? Quelle sotto. Hai sparato uno sulle mura adesso. Ah, era il range? Sì. Ci sei arrivato, ho supposto che tu camminassi ad ogni turno. Vero? Sì. vai, attaccatela. Supposto bene. Ti colpisce con uno. 6 danni. Puccia? Ce n'è un 5 più 1. Con 2 di 6 può fare 5 facile che succede non condivido più le cose su di me stronzo. Ah, che per malo, vai Atala, capito, Adesso mi fanno male per la cronaca. Bam! Oh, finalmente! Critico. Oh, aspetta, finalmente. Ci puoi dire quanti punti per Itacolo che sta per attaccare? O è full? Full. Oh, dai! Finalmente buono, dai, dai. Seccalo! 10, 16, 19, 31. Bah. Boom! Bravo! Hai capito, Giulio? Era l'ultimo? Era l'ultimo. Quelli puoi sotto. Attaccare uno sotto adesso, lanciati. Attacco i mongrel. Salta! Sì, sotto salta. Ci sono i mongrel che hanno finito di smembrare gli ultimi. Ma e salta. Un paio di loro sono rimasti. Bellissimo. Saltiamo tutti giù. Feriti. Butto giù il garro. Non si lancia un danno. Dici com'è, Giulio? Non dirlo a nessuno. Non dirlo a nessuno. Fuori dalle mura. Tranquillo, non lo dirò a nessuno mentre faccio la storia su Instagram. Fuori dalle mura le loro linee ormai si sono rotte. È tutta qui la tua magia? Non esiste, e agiscono come bestie senza cervello. Cioè radi. C'è chi continua a camminare contro la... le mura di pietra. Ma sbattendo la testa. Senza cervello. I solentapassi di zombie rimasti. Credevo di mongre. Solentapassi ce n'è. Ce n'è e se ne sono allontanati e sono ritornati nella foresta. Comodo, Katta, sei prenuti i manuali. Tipico del master. Ma li avevi lasciati tutto qua per fare la baldacchina. Li avevo messi lì. Ma no, erano lì che tenevano. Si tenevano sopra il coro. Non è questa cosa del regalo. Li ho messi io. Vai, vabbè, mettili. Fatti il baldacchino. Ragazzi, avete un po' rotto il cazzo. Niente, Giulio si rompe. Che non ci servono. Tanto saliremo di livello. Pensavo che servisse. Sarebbe bello, però. Bene, abbiamo vinto. Avete vinto. Yuhu! Avete una adesso città. Abbiamo semplicemente una abbazia con una sorta di angelo demone. E 5 progetti. Mi rivolto verso Arthas e dico, abbiamo vinto la battaglia. Tecnicamente potremmo andarcene. Uso plasma terreno per fare una piccola scala di terra in modo che possa scendere di sotto. Okay. Mentre loro fanno quel caso. Però siamo solo un centinaio. Non fai sparire dietro di te mentre cammini, così non possiamo scendere noi. Scusa, perché non fai salire i zombie? Siamo solo a un centinaio di nemici più Strad, boss finale a sorpresa, l'ultimo, dalla conquista di una città. Che non è nei nostri piani, nella nostra quest. Non c'è nessuna quest che ci dice di prendere questa città. Siamo qua. Esattamente per questo invece. Ma è vero, sì, se no era l'idea era non farla finire nelle mani di. Boh, a questo punto. Nelle mani di quelli che ce l'hanno già. A questo punto chiunque, visto che. Cioè. Bene. Ora la popolazione finalmente sarà dalla nostra ma parte. Ma basta, passiamo a fin di spada alla popolazione adesso. È una vergogna, è una vergogna. È una vergogna che abbiano tenuto questo teschio infiammato in mezzo alla città. Ah, è proprio una vergogna, un oltraggio per la buona novena di Cresc. Bene, Grace raggiunge la casa dove si è schiantato... Casimir. No, Kevin, sì. E Demi raccoglie. Me lo immagino troppo come il robottino di Final Space. E miracolosamente vivo. Okay. Anche perché erano Big K. No, era morente, ma qualcuno si è stabilizzato in maniera molto fortuita. Vado vicino e dico. Non c'è più nulla da fare. E gli sparo 3 attacchi. Curo? No, non è vero. Potrei. Ma non lo farò. Deve curarlo. Dice... Faccio un medicine, posso? Ho senso, no, non ha senso. È stabile, non è morente per fortuna. È messo molto male. Ma potrebbe diventarlo. Potrebbe diventarlo. Ed è conscio. È conscio, ha un PF. Posso provare a curarlo io se volete. Ma è cosciente quindi. Sì, però è molto ferito. Vabbè, sti cazzi. Posso raggiungerlo? Sì. Vi radunate dove sta lui. Ciao Kevin. Come va? Okay. Posso usare Guidance e provare a fregargli il libro con un colpo di mano. Una rapidità di mano. Perché? Ti faccio notare che Guidance è un incantesimo con componenti vocali e somatiche, quindi ti vedono che lo lanci, per cui se vuoi provare a passare inosservato non è proprio l'idea. Mentre suono strimpello. Esattamente. Marco, accontentati del libro della strega. Ma l'ha preso? No. Il top l'ha trovato. Spera, no, che non la trovi il top. Ah, perché Ray, cos'è? Ray è andato da Kevin. Sì. Quindi, ma secondo me l'ha già preso Ray. Sì, l'ha già preso Ray. Cioè, non c'è più nulla Kevin addosso. Che cosa? È nudo il libro di qualsiasi cosa avessi. Non ti ricordavo nudo? Qualsiasi cosa avessi. No, no, non è vero. I denti staccati. Dei non è vero, perché Ray non ruba no, tutto, ruba solo una cosa. Cosa che più ti fastidio. No, no, quindi gli ha preso le ossa. La cosa che dà più fastidio. Ah, ha preso le ossa di Kevin. No, lì ha preso le ossa perché era la cosa che poteva dare più fastidio. Lui di solito prende qualcosa che tu dici, ma perché devi farlo? In realtà le ossa di Kevin, lui come sta a stare in piedi? In realtà le orecchie di Casimir ce le avevi. È probabile. Ok, quindi, allora vado a cercare il mio topo fuori dalle mura. Allora, fuori dalle mura anche ci sono ancora qualche zombie che è lì che passeggia, si guarda intorno, qualcuno si riscava la tomba per tornare a dormire. Se i lupi mannari sono lontano, non vedi i lupi mannari, cioè, ma non ti eravamo assediati e abbiamo difeso le mura, tu vuoi uscire adesso? Dai, io esco con sfortuna. Cosa? Letteralmente, cioè. Uscite dalla porta o vi calate dalle mura? No, cosa state facendo? Ma cosa? No! Sono i fermi. No, raga, due insieme di Bosi non c'è posto. Bosi! Bosi, qua, guarda, fai, lui è andato. Capito, abbiamo resistito dentro la città, assediati, adesso vabbè, raga, noi usciamo. Vuoi recuperare il libro della strega? Andiamo a recuperare il libro della strega. Oh, abbiamo difeso la città quando non volevo farlo, cioè non voglio fare anche sta cosa, ma ormai facciamola. Cioè, la gente non fa la figa. Fai male, allora, sì, Casimir riapre l'occhio che non ha come fatto. Carte, faccio un... e vi chiede come... chiede, ce l'abbiamo fatta? Abbiamo vinto? Noi vinciamo sempre. Abbiamo vinto la battaglia. Badulla, guerra. Hai ragione, Vardistran, come sono sempre sagge le tue parole. Mezzo, credo così. Abbiamo vinto. Sembra di realizzare ancora. No. Sì, ce lo stiamo portando di peso. No. La parte difficile è proprio adesso. No, guarda, una delle nostre magliette. È vero, l'ho presa apposta per. No, noi per... l'abbiamo presa apposta. L'ho messa apposta stasera. Era obbligato. Cosa? Mi ci ha regalato. Spesso abusiamo della parola amici su. Devo stare con Sandra, ragazzi. Grazie. Ora posso detto, dimmi per il sushi. Sì, non ti ho più detto un cazzo per la fine. A meno l'hai capito. Sei falso comunque. Sì, ora allora potresti ricambiare regalandoci un solo unico livello. Ah. Falso. No, si frega, no. Dai, andiamo avanti. Secondo me soffre la pressione perché non ci fa salire di livello. Quindi se non voglio vedere, mi chiedo di livello. Esatto. Bravi. Esatto, sarà quando non mi chiederete quando sarà. Non te l'ho mai chiesto, però potresti fare i differenziati. Io non te l'ho mai chiesto quando sei come di livello. No, basta che uno lo chieda. No, vai. Il nostro lavoro qui non è ancora finito. Hai ragione. Hai ragione, devo andare a prendere il libro della strega con sfortuna. Io tutto ciò, tutte queste guerre del sedi mi sono dimenticato cosa stiamo facendo. Stiamo partecipando esatto. Ad una guerra in cui noi non c'entriamo niente. Cioè, se noi non dovevamo salvare, vogliamo prendere una l'idea è prendere questa città per poi andarcene da questa città. Vardistan, animal leader o animal questa sarà la vostra idea. Cioè l'idea di Vardistan è prendiamo la città e poi andiamocene, perché di fatto è questo che faremo. Perché lui è una persona nobile, lui prende ricompensa ma poi la lascia. La nostra guida più spirituale è sempre stata Vardistan. Non ho capito, il barbaro cos'è? Cosa? Il barbaro dice cosa? Il barbaro dice cosa? Allora, il povero Kevin che cerca di parlare mentre è lì che sputa sangue. Ah, ma lo curo. Oh, che carino. Che carino. No, non sprecare quello per i PNG. Dai, no, PNG. Sono quelle che magari ci fanno servire. Non se vuoi mi sbatto un cazzo, gatto. Invece se ti dimostri buono il PNG. Ah, caccia via. Sì, ma l'inspiration mi sento ispirato. È curo Vardis. No, è curo Kevin. Ottima ispirazione. È paralizzato. Oh. Amico mio, amico mio, spesso abusiamo. Io ho finito un po', dico no, sto malissimo. Sì, vabbè, 4 più 6, no, 7 HP. Grazie, si sente meglio. Si riprende dalla brutta seconda caduta e dice e si scusa per essere stato preso alla sprovvista. Ma gli do uno schiaffo alla sprovvista per vedere cosa che stavo. Sempre all'erba. Ma questo è il momento in cui dobbiamo essere più desti e pronti. Certo, siamo tutti morti. Siamo... combattiamo da delle ore. In questo momento sì, però non siamo in grado probabilmente di affrontarli. No, dobbiamo... noi siamo al 7. E per di più siamo a distanti. Questo è un muro altissimo che ci separa dall'abbazia. Dove sono i costruttori di Cresc? Possiamo usare lo sposto terra di... Dobbiamo assicurare quello che abbiamo faticosamente guadagnato. Presto la popolazione sarà nel panico più completo. Hai ragione, dobbiamo passare la Vespa. Era quello che stavo dicendo. Morti non potranno essere un Dubai problema. Se li bruciamo non possono neanche più tornare come zombie. Ma ci servirà il loro aiuto per mantenere questa posizione. Da ma dopo che avremo usato popolo di Cresc. Ma sempre questi scamonger tutti. Sì. E i mongre sono tutti giù. Sì, ne sono morti un paio, ce ne sono ancora Noi abbiamo fatto tutta la parte precedente ammazzando mongre su mongre, adesso invece sono nostri amici. Se gli ordini di andare a fare la guardia sulle mura ci vanno. Noi abbiamo deciso... No, io credevo fossero buttati giù. Sì, sono giù. Decine. Si sono portati giù tre zombie adesso e li hanno sbranati usando la loro... tornare su? Se glielo chiedi, sì, gentilmente, per favore. Beh, chiaro, tornate su. Tornate su merda. Wow, e vanno. cioè, loro scalano le mura senza problemi. No, prendono le scale e vanno su e tornano sulle mura. Che scale? Quelle scale che usate voi. Ah, loro hanno buttato giù gli zombie all'interno. Certo. Ah, credevo. Ci fossero buttati all'esterno. Sì. Sembrava molto eroico. Infatti. Infatti non ho mai. Ok, quindi gli rimandi a guardia sulle mura. Beh, sì, ci sta. Per almeno, momento sì, almeno da sentinelli. Bau. E scattano come bravi soldatini. E, quindi sì, dobbiamo trovare un modo per confortare la popolazione. L'unica nostra possibilità. Non siete stati mangiati dagli zombie. Lui è quello giusto per parlare alla popolazione, lo ascolteranno. Popolo di ma noi perché ci stiamo facendo. Folli. Noi perché ci stiamo lasciando dire cosa fare da un PNG? No, ma noi stiamo andando a impelagare in qualcosa che non ci riguarda. Lui propone, poi voi sta a voi scegliere cosa fare, cosa no. No, non è il momento. Atanas, ti prego, è importante. Riposa. Riposa, cazzo! No, l'ha curato, sta anche abbastanza bene adesso. Mi ha dato 7 punti ferita. Sei come stava se prima? Se gli do un cartone, non stava abbastanza anche bene. Di qua. Perché gli dare un cartone? Hai ragione, ne do 3. Da di classe non si è parlato 3 volte. Che pazienza. Almeno adesso è di una tornata divertente la sessione. Che culo. Ora che abbiamo guadagnato questa postazione di difesa, dobbiamo fare il possibile per rincuorare la popolazione. Sì, ma possiamo difenderla solo da un lato, non abbiamo un problema dall'altro. C'è qualcuno che deve riattaccarla. Pensiamo anche a questo. No. Ciao Marco. Ciao Marco. Dai, ci stavamo chiedendo dove eri finito. Abbiamo sentito la tua mancanza. Ogni volta che si riconnette c'è sempre uno. Anche se sentito non è esattamente la parola che userei. Penseremo anche a quello, ma è chiaro che con le nostre forze da sole non abbiamo possibilità, quindi dobbiamo trovare un modo di richiamare rinforzi e organizzare le difese che abbiamo in questo momento. Abbiamo dei rinforzi? Dobbiamo trovarli. L'unica nostra possibilità è riuscire a... Fatto gli elfi? Uno, punto primo. Raga, possiamo fare l'armata degli elfi come era originariamente? Che fai non fatto ieri? Gli elfi sono nel loro villaggetto. Ma erano ancora lì, qualcuno c'era passato lì. Ci eravate passati quando avete portato il vino a Ex Vallachi. L'avevano portato a Race e non mi ricordo chi. Ce la presentiamo lì. Dedicata di casse. Se lo guardi così, come? Quello. Hai chiesto cosa fosse? LOL. Perché circolare è vero, cazzo non me ne ero mai accorto. È una scultura futurista. Figo. Ah, pensavo fosse un modo per dire che era una testa di cazzo. Hanno fatto un dildo. Sembra un fumo. Un butt plug. No, cioè, ovviamente la scultura non è di legno, non è originale. Se vuoi, si può tenerla in casa senza che sì, esatto, è geniale. Esatto. Al massimo gli danno del frocio. Wow. Sì, delle due. Sì. Cioè, sembra più un gioco erotico. Messaggi subliminali a Tycoons and Dragons. Allora, ascoltatemi, ragazzi, prima che. Di vento. Un frattempo. Qualcuno sta usando un phone. Non sono esperto. Vabbè. Marco, a un certo punto arriva sempre questo disturbo. Sempre intorno a questo. Chiudi la finestra, Marco. Che succede? Lui è che arrivi via. Grazie. Sta passando adesso. Allora, Marco! Marco no! No! Genitore 1, genitore 2! Avete visto quella dei i ragazzi di Polo con le scritte? Ah sì, sì. Allora, presto, sono molto stanco e penso anche voi. Cerchiamo di analizzare la situazione. Questo è Casimir che parla, ma potrei anche essere anch'io. Oggi è stata una lunga giornata. Oh, un'ottima interpretazione. Grazie. Allora, dobbiamo organizzare le difese. Ma non possiamo andarcene da questa città. Lui mi lascia dire le sue due righe, poi fate quel cazzo che esci con lui. Fai finire il suo dialogo, poi fai quel cazzo che ti pare. Tu hai cliccato di parlare con PNG, non puoi saltare. Parlavo lui. C'è il cinematic. Allora, riorganizzare la popolazione, fare in modo che siano autonomi nella difesa, andare a cercare alleati. Dobbiamo, ci serve il supporto dei corvi della vigna per riportare qua delle provviste e magari anche farli trasferire dal loro covo. Ma l'hanno la loro vigna. Vorresti separare tu. Probabilmente non sarà più sicuro. E qua all'interno delle mura possono portare le gemme che hanno la gemma che hanno trovato e ripiantare la vigna al sicuro. Ma scusa, quanti mobi abbiamo ucciso? 50. Quindi è pieno di cibo. Commestibili. Vabbè, i 20 che abbiamo ucciso tipo un'ora fa. Non interrompetelo. Punto 2. I miei consanguinei di me non si fidano più, mi hanno esiliato e condannato a morte. Ancora. Quindi ti rimandiamo le tue consanguinei. Non era quello che stavo dicendo. Ma adesso sono stati abbandonati da i Vistani, sì, che in realtà sono diventati i nuovi padroni di ex Vallachi, ora Vaktargrad. Quindi non c'è più nessuno che. Che bel nome Vaktargrad. Grazie. Che hai detto tu, Casi? Sì. Ah, Casimir, no, la scelta. Ah, Kevin. Sì, l'ho scelto io. Perché non è previsto dal gioco che succeda da questo. No, è previsto che succedesse, ma non che cambiasse la massima. Quindi qualcuno abbastanza convincente e magari utilizzando un astuto stratagemma potrebbe convincerli che eccomi qua. Credo che Giulio sia quello perfetto per noi. Ah, chi devo ammazzare oggi? Credo che sia possibile convincerli che dove stanno loro ormai non è più sicuro e quindi offrirgli un. No, questo è tutto buono e giusto. In caso che il personaggio carismatico oggi non ci sia. Certo, verrà fatto in futuro, però okay. Finché sono ancora sveglio e lucido, fatemi dire queste cose. Questo però non lo dice. Poi i nostri due più preziosi alleati, Van Richten e Esmeralda, sono probabilmente morti. Abbiamo un concetto diverso di prezioso e alleato. Ci hanno salvato la vita e hanno impedito al trabucco di sparare e di sommergerci di teschi fiammeggianti. Avrebbe impedito Race 2 secondi dopo. No, e lui è un arcantrister. Però poi in realtà la cosa fantastica è che poi sono posto anche inseguire dai lupi e questo è stato. Avranno bisogno di aiuto. Probabilmente sono andati. Noi in questo momento non siamo in grado di dargli quell'aiuto. La situazione lo so, è disperata, ma è la nostra ultima, unica possibilità. Non è disperata, semplicemente ci dobbiamo riposare e poi sarà lo scontro finale con questi con gli altri. Poi, esatto, cioè funziona così, noi adesso ci riposiamo e andiamo al monastero. La popolazione possiamo provare a radunarla in modo che quando arriveranno a ucciderli saranno tutti in su. Era quello che aveva in mente. Sicuramente se loro dovessero venire per focussare la popolazione... Dai, comunque. Ora anche io mi devo riposare. Dovremmo dare un taglio. Comunque, forse ragazzi, siamo onesti: la morte della popolazione sarà ben più indolore se la faccio io rispetto se la fanno gli altri. Ecco, l'unica cosa. No, potremmo farlo usare come scudi umani mentre quello sia mandare un messaggio a quelli della Viglia. Sarebbe un ottimo. Magari cosa. Qualche corvo se lo troviamo. Sono d'accordo. Ora, come voi, anch'io mi devo riposare. Quindi qualcuno che ha animale. Vi prego di cercare di salvare quello che abbiamo faticosamente guadagnato oggi. E collassa addormentata. No, ha fatto appena le cure. Era per il pathos della scena. Puoi bloccare le cinematiche. Esatto. Bene, ora fate quel cazzo che volete, ok? Io volevo chiedere a lui, non possiamo uscire dalla città per riposare. Si è addormentato. Ancora con questa storia, sono cinque episodi. Allora, abbiamo fatto tre sessioni per acquistare questa città. Ora bruciamo. Ora bruciamo. Sono d'accordo. Allora, è tempo di parlare alla popolazione. Pare che sta popolazione di quanta gente fa? Ma sono pochissimi. Con qualche decina. Sì, esatto. 30. Ma che cazzo vogliamo salvare? Raduno la popolazione. Suono il corno. Le campane. Passo casa per casa a radunare la popolazione. No, la campana dei pasti. No, io passo casa per casa. La campana dei pasti la suoniamo. E poi Lucia è la prima casa. Ti aprono. Chi è? In piazza. Ha chiesto qualcosa a Marco. Cosa? È ancora viva la madre del quartermaster? Beh, è un'ottima domanda. Nessuno di voi è più andato a controllare. Non si sente perché esce da là, è chiaro. Esce da là adesso? Mm-hmm. Dopo che ha richiamato. Parla? Parlo. Va bene, radunate la popolazione. Ci sono anche la madre che ha partorito il giorno prima. Anche la madre che ha partorito il giorno prima. Se non riesce, la porto io in piazza. Di uomini adulti e validi ce ne sono almeno una trentina, più donne e bambini. Beh, validi anche loro. Vabbè, donne e bambini, peccato. Cioè. Popolo di Krez. Le donne sono ancora. Le donne possono essere utilizzate per combattere, i bambini per sollazzarci. Dai, fatemi far finta di fare il discorso. Dai, facciamogli fare un discorso. Dai, finalmente. Un discorso in cui non sia tanto morirete tutti a distro. Popolo di Krez. È importante, usa la parola folli. Allora piace. Mi raccomando. Aspetta che ce l'ho. Cos'è successo? Popolo di Krez. Abbiamo sentito grida orribili. Ho detto popolo di Krez. Allora. Mentre è partita la cinematica interrompere. Arrestate quella cosa. La cinematica. Mentre lui parla, io giro tra i tizi. Se qualcuno fiata, o meno. Come bella la democrazia. Popolo di Krez. Popolo di Krez. In passato abbiamo avuto le nostre divergenze. Perché devi mettere il dito nella piaga? Prima frase. In realtà loro l'avevano colpito noi. No, vabbè, io ho ammazzato qualcuno. Era ancora poi sciacallo. Ma tutti noi paghiamo sì. Le colpe e le follie del vecchio abate. Bravo, scarica sul governo precedente. Nella sua pazzia ha pensato di graziarsi il maligno e portare qui l'oscurità. Giusto. Ma noi siamo tornati. Nonostante voi ci abbiate preso a lanci di pietre, siamo tornati per salvare porgere l'altra guancia. Per salvare questa città. E che c'ho 14 punti ferita. Scusa, quindi le cose positive le lascio andare. Bravo. Dalle tenebre. Sì, salvaci, mio signore. Ha parlato Giulio? No, ho detto le cose positive, gliele lascio dire. Ah, ok. Anche se mio signore non so perché mette in secondo piano tutti noi altri. È diventato anche il comandante dei mondi. Mi avvicino lì e guardo male il tizio che l'ha detto. Abbiamo vostre signorie. Io e i miei compagni abbiamo combattuto strenuamente sulle mura di Kresk per difendere dall'invasione dei non morti e di altre creature oscure. Tranne Reis. Uno del popolo indica Reis. Lui non ha fatto niente. Ma era invisibile, quindi no. Posso fare delle cose mentre vespa? Che cosa vuoi fare, Marco? Perché non... Cioè, dai, Marco, puoi non fare... Di puoi non fare il bosi per una volta. Spero ti voglia aiutare, vero Marco? Va bene, allora, mentre mi pensa a fare. E allora gli dico: e abbiamo combattuto per poter preservare la vostra gioiosa comunità, ma i tempi oscuri purtroppo non sono ancora terminati. E così come noi abbiamo combattuto per voi, vi chiedo ora di combattere non per noi, questa bella terra, non su di noi, non contro di noi, ma con noi, perché torni a splendere il sole non solo su Kresk ma sull'intera Barovia, oggi e per sempre. Dai, la gente comincia a dire: che cos'è il sole? Esatto. Devo tirare? Fammi un tiro con vantaggio in virtù della tua doti oratorio. Oh, 18. Più 6, 24. Parte strano. Ma non era quello che avevo ucciso 2 secondi fa. Sì, ma adesso lo voglio. Non hai anche detto il nome. Non ha importanza i nomi. Ma stanno acclamando il tuo nome senza che gliel'hai detto, incredibile. C'è scritto sopra. Ah. Sì, ti acclamano, la tipa porta il suo neonato per fartelo baciare. E io la spintono. È la sicurezza. Così, così. Cos'è il papa? Grazie amici per essere con noi. Ma non dobbiamo perdere Salvatore. Tempo. Dobbiamo dici che cosa tempo. Dobbiamo fare. Non lo so. Hai detto da quello idee. Non so perché niente, ragionatevi, preparate lo sconto, prendete le armi, trovate yourself e mettete al sicuro i deboli, mettete subito, bisogna mettere al sicuro donne e bambini, perché domani sarà lo scontro. Andatevi nelle foreste, sicuramente sono al sicuro. Purtroppo i nostri nemici albergano all'interno della città. E fortificare la strada che conduce alla... Bello, bravo, mi piace. E... lui è l'ingegnere d'assedio. Vabbè, sono il guerriero, ci sta che sono quello un po' più pratico. Purtroppo il figlio del borgomastro, che un tempo era un docile bambino, oggi è una creatura demoniaca. Anche se è un angelo, ma demoniaca! È un angelico demone. È un demone angelico. Insomma, un d'angelo. Ora, insieme ai servitori dell'oscurità, si sono. Barricati. Si sono rifugiati in modo molto vile. Non come quando abbiamo interrotto lo scontro. In modo molto vile nell'abbazia. Dobbiamo quindi creare un posto di blocco sulla strada che porta all'abbazia. Vi chiederò l'aiuto di tutte le braccia forti. Invece donne, bambini e chi non può dare una mano deve essere messo quanto più possibile al sicuro. In attesa. Portateli all'abbazia, lì saranno al sicuro. è un luogo. No. L'ingresso è questo, l'abbazia. Se tutti noi collaboreremo, avremo una possibilità. Sì, quella è una salita o discesa. Si può fare. Volendo dritto. Ne vogliamo due. Si può fare tagliando o è roba tipo arrampicata? È roba tipo arrampicata, okay. Tipo ogni linea credo siano 100 piedi. Il punto è che i vampiri hanno movimenti del ragno, quindi bisognerà fare delle guardie qua. Comunque. Signore, ci metteremo a fare la guardia alla strada giorno e notte se ce lo chiederete. Solo per favore. Non chiedete, ci vediamo molto... Cosa? Dopo per favore? Solo per favore? Le provviste stanno cominciando a scarseggiare. Per questo le razioneremo. Perfetto, grazie. Allora servirebbe un modo per foraggiare le nostre dispense. Non è... Beh, è pieno di mogri morti qua in giro, ragazzi. Abbiamo alleati quindi potenti. Rischiamo di diffondere mura. Malattie, tra l'altro, bisognerà seppellirle. Abbiamo alleati potenti al di fuori di queste mura. Raccogliete che tutti i cadaveri che trovate, bruciateli, questo è il primo conto. Sì, signore. E poi su così sono cotti e potete mangiarli. Vabbè, bruciarli non passano più malattie a quel punto, dai. Il primo che vi porterà un corvo. No, in realtà però possiamo cercare. Vabbè, mentre alcuni di loro fanno questa roba, c'è dire... un topo fuori, andate a prenderlo. Possiamo dire ad altri di iniziare a tagliare gli alberi e fortificare la strada, non direi a questa altezza. quasi alla prima curva. No, forse, forse anche meglio più su. Vabbè, posso. Qualcosa che, come dici tu, loro possono scendere diretti. In modo da avere comunque un minor perimetro fai, da. Hai da qui nel, qui. Nel senso, se noi fortifichiamo qua, comunque dobbiamo controllare tutto. Certo. Se fortifichi più su, controlli comunque un po' meno. Ho capito. Davvero nessuno vuole andare a controllare se la madre del quartermastro è viva o morta? Qualcuno vada a controllare. Vabbè, ma io sto facendo questo discorso dalla. Piazza. Lo sto facendo dal. Dal sì, in realtà da davanti alla casa. Eravate andato nella. Sul pulpito? Forse, non c'è bisogno del pulpito. Abbiamo radunato il nella tuo, piazza. Il tuo discorso la piazza è questa. Di sicuro non ve lo ricordate, eravate. La casa del Borgomastro non è questa? Sì. Qui siamo di va bene. Siete nella piazza. Siamo allora, vicino alla casa del Borgomastro. Dobbiamo fare tre cose: guardare sta roba qui, cercare un corvo e te sovrintendere ai lavori e aiutarli nei lavori. No, il corvo dobbiamo mandare un messaggio ai quelli della. Ok, qualcuno ha un messaggio. Io no. Marco. Marco, fai un messaggio. Dobbiamo avvertire della gente di venire qua. Che tu non conosci. Ma messaggio non ha una gittata così grande. No, infatti bisogna prendere un corvo. Fare. Lui dice addestrarlo senza no, magia. Non addestrarlo, basta legargli un messaggio e fare un animal handling per mandare. Possiamo usare il pistello della. Posso invocarlo? Ad esempio. Posso invocarlo io? Però sai, quanto è randomico. No, quello che evochi dura troppo poco. Usiamo il pistrello dura un'ora. Un'ora? Non basta mica. Come no? Vola. Arrivare alla viglia. Volando, sì. Ah, sì. Se andasse a piedi sì, sarebbe troppo in là, ma pistarello a piedi sono considera che a piedi sono avanti, cioè noi ci abbiamo messo 8 ore. Mi piacerebbe l'idea di trovare un corvo e. Va bene, cerca un corvo. Ne trovi uno con una freccia conficcata nel petto. Vabbè, però è qua su. Sì, lo so, purtroppo sarebbe stato divertente. Però se non altro posso fare. Beh, quello è cibo. Conficcare per anche cibo, cibo per la popolazione. Era l'abbazia quel corvo. E dobbiamo anche recuperare gli elfi, mi sa, a questo punto. Potrebbe essere utile. E come lo recuperiamo? Bisogna andare dagli elfi e convincerli. Gli elfi, cioè, non possiamo fare adesso. Un altro cosa stai facendo? Sto digitando al computer. La pianti, la pianti come certo su Facebook? Certo che non senti, stai. Piantami come. Sto scrivendo a K. Ah, sì. È comodo. Non so che stai commentando su Facebook. Cosa commenta? Non so, di solito insulta la gente. È un. No, mi ha scritto. È difetto di famiglia. Si è dice un, no, io non commento su Facebook. È un. Come si chiama? Un. Vabbè. Leone alla tastiera. La risposta è molto. Che domande fai? La domanda era: ti piace la mia acconciatura? Allora. In realtà quanto sono distanti gli elfi? Allora, posso tirare un persuasione o un deception? Cosa? Perché? Di assoluto, così. Dovrai darmi più dettagli di questi. Allora, tu hai fatto una domanda. Quanto sono distanti gli elfi? Andando a piedi... ci mettete intanto chiedo ai popolani se hanno due cavalli tre e mezzo no sono tutti morti sì gli animali non quattro, ci sono 5 vabbè magari due sono stati ma che fenomeno 8 9 e mezzo l'ho visto impressionante mi si l'ho visto per la strada lunga tanta roba 9 ore e mezzo gli sarei già caduto malissimo per la strada lunga per la strada corta sono 3 e mezza 7 e niente 8 e mezza mi risparmio mezz'ora per la strada corta pericolosa in mezzo alla foresta ora è una giocatrice di basket a piedi sì beh chiaro non ha, il bestiame non c'è più il bestiame è stato mangiato neanche per sbaglio un cavallo è rimasto c'è un asino qualche boe una mosca no se non ce l'ha. Quanto durano i tuoi animali, Arci? Un'ora. No, poco. Questo volume di merda. È ufficiale. Messi vince il pallone d'oro. Ma cosa ha fatto per vincere? Esatto, il cazzo che deve essere. Cioè, sì, aveva fatto i soliti 1000 gol che fa ogni anno, però di più. Andarlo a tipo a Salah. 1000 gol all'anno, insomma. No, no, 1000. Non è Van Dijk. O anche Salah. Beh, Cristiano Ronaldo non lo prende più. Terzo. Ok, Ronaldo possiamo. Secondo chi è? Io. Penso Van Dijk. Ma il pallone d'oro lo prendi solo per il numero di gol? No, è una votazione in realtà. E gli addetti ne vuole Mané qua. Sarà quinto dietro Mané. Cioè, Mané Van Dijk. Fai una prova di persuasione. No, forse mi serve l'audio. Forse. Ma forse no. Su chi? Non si sa, gli ha scritto una scritto roba e adesso capiremo. Invece di, a fare cosa. Invece di dire tipo potresti parlare, fa ok, allora sì. Cosa? Già. Cioè lo può dire, anche se è contro di noi, lo può dire. No, no, perché qualcuno gioca di metagame qua, Ma certo lo dico. Ma tu sei lì, Marco, vedi vicino. No, e poi fa finta di sapere lo stesso. Sì. Chiaro che se uno gioca a cazzo ci sta che uno abbia dei dubbi. Va bene, quindi qual è il piano? Allora, intanto iniziano a battere gli alberi e fortificare la strada qua. Prego, quando voi state parlando di chi state facendo riferimento? Questi 10 imbecilli? Ai 30 imbecilli. 30 già escluso donne e bambini e 30 validi? 30 validi. Gli altri sono invalidi. Le donne e i bambini possono raccattare i corpi e bruciarli, così anche loro fanno qualcosa. I bambini possono anche giocare con le teste. Fa bene a quell'età. Io sono cresciuto così. Esatto, io sono cresciuto così. Non me lo ricordo, ma presumo di essere cresciuto così. Cosa? Non forse è venuto a fare. Ah, ok, ok, pensavo. No, io nella realtà non sono cresciuto così. Vero Marco? Povera gente di Montego. Ah, poi sta madre borgomastro, viva e morta. Sti cazzi, cioè, onestamente. No, serve, lei ha un ruolo politico. È svenuta sul pavimento di casa sua. Oh, quando... facciamo il pavimento con l'L messa in mezzo. Quando è stata schiantata dal dal teschio fiammeggiante che è caduto. La cura. Facciamo la rinvenita. La cura. Salta a capì. Oddio, cosa è successo? Cartone in faccia, gli faccio sbagliare. La mia casa è tutta distrutta. Orso. Se di nuovo l'orso in casa, signora. Signora, vede ancora gli orsi. Signora, oddio. È in evidente stato confusionale. Dice, comincia a blatterare cose senza senso. E intervalla momenti di coscienza a momenti del tipo mio figlio, dov'è mio figlio? No, mio figlio è un mostro. Dov'è? È vero. Ne do uno schiaffo. Signora, vede ancora i lupi sulle tette. 12. La colpisce, vabbè. Cos'è un D4 danno? No, è uno. Un danno. 5 danni. Va bene, sviene. Cos'hai fatto? Ti ha dato uno schiaffo. Dai, Giulio, l'ho appena curata. L'utilità di Giulio. Ho capito, non è utile una che inizia a balbettare. Ah, mio figlio, oddio, oddio. Cioè. Beh, fammi lavorare. Zitta, torna. Le faccio quella gratuita, le faccio il quella bonus. Cioè, tu, lui la mena, tu la curi, lui la mena. No, beh, non sapevo che lo avesse menato. È una tortura. Tu te lo dico, vai là. Faccio di quello di, come si chiama? 2 più 3, 5, la... Sì. Signora, vedi ancora i lupi che volano? Non uscivo quello di... È molto grave. Ma per fortuna ancora non vedo uno. Vabbè. Orso. Quale orso? Ok, vabbè, allora il consiglio di guerra siamo noi a questo punto. Vabbè, siamo noi due, mezzo consiglio di guerra. Giulio, mi piace la tua strategia, portala avanti. Ma tu rischi, tu non puoi ritrasportarti, schiaffeggiare la donna e essere di parlare di consiglio di guerra come si fa tutto. Sono io il consiglio di guerra, Arci, posso? Che sta... No, vabbè, ci sta di dare la gente, ci sta di sbarricare la strada. La gente gli ho già detto cosa fare, ora ci serve che qualcuno comunichi con la vigna. Vabbè, con la vigna può farlo. E con gli elfi. Io non avevo mandato sto cazzo di corvo alla vigna. Vieni di là. non mi ha detto niente. Una donna! No, non ha detto prima che ci riuscivo ad arrivare. Sì. Vabbè, rega, mando il messaggio. Passate la lì. Ah, ok, perfetto, bravo. Che signora, messaggio mando? Vedi ancora. Adesso cosa posso. Ah, quanti sono a terra? Allora, eh no, di tre, in terzo ne ho ancora due. Aspetta, ma lui manda il messaggio alla vigna. Sì. Sì. Sta praticamente. Mentre il corvo si metterà a parlare. Creeremo una catapulta. No. Diventeremo la tomba. Mentre gli esuli non ci arriva questo animale. Digli. Dopo. Di. No, gli metterò un messaggio nelle zampe, no? Sì. Ah, quindi scriviamo. Eh sì, cosa dico? Al corvo di parlare con un albero? Beh, sono corvi, puoi anche dire al corvo di parlare ad altri corvi. Se tu parli con i corvi sono problemi gravi. Io devo dargli un messaggino attaccato alla zampa. Io non parlo con i corvi. Allora? Io li uccido. E basta. Si manda il corvo arriva lì e fa cra cra. Dopo. E tu non sai comunicare con gli animali? Non sei un druide, che cazzo fanno i druidi? Ma sono gli animali che non sanno comunicare con gli umani. Eh sì. No, con quelli della vigna in teoria sì. In teoria sì. No, poi comunque il druido non parla con gli animali. Perché sono... C'è l'incantesimo. C'è l'incantesimo a parlare con gli animali. Sono sti cazzi mannari, sono corrini mannari. Oddio, dipende che livello è, però no. Vabbè. Comunque no, scriviamo sto messaggio. Sì, se eventualmente... Scriviamo... Venite... Con 4 E. Venite a Kretsk. Aiuto. Questa bellissima. Tamburi. Tamburi bellissimi. Aiutateci. Dove andare in vacanza con la propria famiglia? No. Scriviamo Kretsk, ora è libera. Salvare. Il paladino deve scrivere il messaggio. Paladino scrive il messaggio. Ok. Sai scrivere per sì. Deve essere convincente come il discorso. È ancora paralizzato? No, era una specie di telegram. No, puoi anche scriverlo. Ah, okay. Tanto lo scrivo. Basta che non scrivi un papiro. Caro Davide. Gigantesco. Cari amici. In mezzo del cammino della strada. Dei corvi. Pennuti. Cari amici dei corvi. Ci troviamo al momento a Kretsk nel tentativo di liberare la città dal malvagio figlio del borgomastro. Beh, questo è un corvo. Divenuto... divenuto un'aberrazione a causa del maligno. Mandiamo. Dipende quanti cazzo di corvi mi fai evocare, tu catta. Quant'è? Cos'è lì? Se io facciamo una cosa di 15 cose, poi evoco due corvi, quattro rinoceronti. Con lui. Intanto scriviamo un messaggio, vediamo quanto ti viene lui. Perché vabbè, raccontarsi della tua vita. Con lui c'è una delle mogli di Strad e una delle mogli del maligno. E altre oscure creature. Quindi la città è nostra. Siamo riusciti a difendere la città. La città è nostra. L'abbazia. Per ora siamo riusciti a difendere la città da un assedio di non morti. E controlliamo. Ma così non. Cioè, devi ignorare la pillola. La città è nostra. E abbiamo ottenuto il favore della popolazione. I nostri nemici si trovano ora nell'abbazia, ma presto avranno nuove forze e sarà un nuovo scontro. Chiediamo di giungere quanto prima a Kretsk portando Raven o Raven. That's a Raven. E chiediamo di giungere quanto prima a Kretsk con provviste per la popolazione fortemente debilitata. Hanno di vita. Un cazzo di piccione. Bardistran Challenge 0, non posso evocare tipo dei avvoltoi. Vabbè, evoca che cazzo ti pare, Arci. Cioè, puoi evocare anche delle aquile giganti. Che cazzo ne è? Che un corvo passa inosservato. Anche avvoltoi. Un corvo con un messaggio, magari va. Si dipende, stai scrivendo un papiro. C'è un corvo con una pergamena così. Oh, sceo. Grazie. Se uno di vita basta. Scrivilo, scrivilo tu. Ma non ce ne possiamo andare. No, sceo. È una grande X. No, non sono Fabio. Se no, evoco Swarm of Bats. Sciamare i pipistrelli. Non puoi evocare gli sceme. Perché no? Perché il Buster. Cioè, esatto. C'è un motivo per cui non lo puoi evocare, che è non sono bestie, ma sono sciame. E evoco un pipistrello. E uno sciame. Riunisco. E evoco un pipistrello. Poi un pipistrello. Vabbè, evoco gli avvoltoi. Almeno se tirano una freccia non muoiono. Evoca un pipistrello di sciami. Ma evoca qualcosa che passa almeno. Non so. Un corvo. Non abbiamo mai visto degli avvoltoi sta cazzo di paese. E quanto mai stai sentito guardare la fauna delle... Vabbè, l'abbiamo un po' visitato, eh. Tra l'altro abbiamo fatto anche un po' di morte in giro. Nelle descrizioni ci sarebbe stato. Quant'è in termini di viaggio? Cosa hai detto? Nelle? Nelle descrizioni ci sarebbe stato. Descrizione. Quanto è la distanza di volo da qua alla vigna? Di volo in un'ora ci arrivi. In un'ora di volo? Sì. E quindi poi arrivano in un'ora e precipitano i messaggi dall'alto. Sì, sì. Ok. Beh, faremo sti corvi. Però non challenge zero, quindi potrei invocarne ai fai, fai un animale veloce, fai un luce, perché dice fino a challenge. No, non avrei mangi- dice fino a challenge il quarto, quindi puoi scegliere anche. Sì, penso che velocità portare. Di volare no, può fare no, perché Giulio deve evocare solamente cose che non voli. No, che non attirino l'attenzione. Perché se in alto volano degli avvoltoi. Ma quella andrà più veloce di un corvo, no? No, lo so, no. Ma ne posso evocare, no? Posso evocare? Sì, ma l'aquila non è la tipica animale che vuole. No, no, l'aquila puoi evocare, l'aquila gigante già. Diverso. Ma spara un'aquila gigante, quanto vola? Igo? Va bene, ma penso non cambia. Ma sì, mi sa che sono uguale. Sono dettagli poco influenti. Sì, ma Giant Eagle vuol dire che arriva e poi arrivano le acque. Poi andate a letto, non so. Ah, direi di aggiungere il messaggio ai corvi. No, vuole più veloce l'aquila. Di poco. Direi di aggiungere un messaggio ai corvi. Grazie. Di cercare di portarci il più in fretta possibile qualche cavallo. Vabbè, allora vi attendiamo. Tu chi vuoi che i corvi e cavalcature? No, i corvi grabbino un cavallo. No, perché prima ci portano i cavalli, prima possiamo partire e raggiungere gli elfi e chiamare anche gli elfi. Ma lì sono cavalli. Non possiamo chiedere. Dura un'ora, ci vogliono 8 ore per arrivare dagli elfi. 8 ore di cavallo? A piedi, però. Quindi la metà cavallo. 4 di cavallo. Va bene, dai. Vabbè, il nostro messaggio evoco. Scusa, ma non può diventare un cavallo uno di noi vada dagli elfi. Anche. Sì, anche. Però è che ci mandavo sfortuna dagli elfi. Sì, ma non ci andrei adesso, visto che abbiamo bisogno di ogni effettivo. Sì, comunque facciamo uno scherzo di passo lungo. Non mandavo i nostri unici due incantatori dagli elfi. No, cioè, adesso no, ci mandavo sfortuna. Anche perché se moriamo tutti qua e non credo che sarà molto. Catta evoco un di. Cos'era? Un di 8. Un di 8 qua. Vendicate. Cosa sono gli altri due? Piccioni. Viaggiatori. Piccioni viaggiatori. Ma tu vuoi usare il coro? Vabbè, facciamo 8 messaggi tutti uguali. E 2 messaggi troll nei piccioni. Strad, se trovi questo messaggio, puzzi. Strada suca. No, ma nei 2 messaggi dei piccioni scriviamo guarda quelli dei corvi. Idiota. Però seriamente puoi provare con animal handling a un corvo vero normale non evocato. Sì, ma ormai non l'abbiamo sì, fatto. Sì, ma è dai, lunga. Vabbè. E poi no, il corvo è no, che convince il corvo che in realtà avremmo potuto. Adesso no, gli elfi dobbiamo darci persona a convincerli. Perché l'ultima volta non è andata bene. Sì, hai ragione, vero. Tu lo sapevi che i piccioni dopo aver fatto sesso muoiono? No, non lo sapevo, che ho scopato io sì. Basta. Rilocation al channel. Oh, stasera ci sono state delle terre questa puntata. Bene, la gente comincia a lavorare per tagliare gli alberi e fare delle fortificazioni interne. Domanda, che ora è per esempio, nella giornata? C'è stato il duello a mezzogiorno, se vi ricordate. Sì, quindi questo è il pomeriggio. Sì, Katta saranno 8 sessioni. No, ci, sono ancora ci sono ancora ore di luce. Poi perché sono state solo. No, lo intendevo per pensando alle progenie. Almeno per qualche ora abbiamo combattuto. Vabbè, io sicuro faccio un riposo breve. Almeno faccio un riposo breve. Vabbè, allora, no, riposo lungo, direi. Lungo. Mentre non posso fare riposo lungo a mezzogiorno, no? Cosa te lo impedisce? Riposo lungo non comprende tipo 2 ore di masturbazione e 6 di sonno. Sfortuna, tu dove sei? Cosa ti impedisce di fare un riposo a qualsiasi ora della giornata? Con voi, credo. Io sono riuscito a convincere. Nella fine puoi riposare a fare riposo lungo, cioè non devi farlo a una certa distanza dall'altra. Non puoi fare riposo lungo a comando. È l'ultimo quando avete fatto. La notte. Sì, che possiamo fare, o siamo devastati, lo ti metti di dormire. Sei esausto per la battaglia. No, lui dice un'altra cosa. Cioè, in teoria tu puoi fare riposi brevi se sei esausto dalla battaglia. 2 di fila magari, ma non puoi fare riposo lungo se hai appena dormito alle sì, effettivamente prima. Non so a livello di regole com'è, però se si alle 8 non è che mi sembra, mi sembra, magari dico una cazzata. Mi ricordo anche una cosa del genere, ma sì, certo, si è alle 8 di mattina, non è che a mezzogiorno. Vabbè, intanto supervisioniamo i lavori, cioè, quindi quello è riposo breve. Capito? Andiamo avanti fino al riposo lungo, cioè sì, vediamo sì, i lavori per fare sì. Siccome Vez voleva addormentarsi a mezzogiorno, cosa che tu fai già in Italia, qua è un'altra cosa. Non voglio andare a Ferrando, ma... Giulio, io sto provando a convincere quattro contadini a diventare dei warlock, non so se sono riuscito. Sì, sì, ma adesso parliamo di D&D, eh. Non quello che fai con l'università. Scusa, ma per insieme domani? Eh no, vado a serve. Quando arriva lui, io vado soldato. Long rest. Spero. Vabbè, comunque io ti chiedo di aiutare i... quando hai tempo. Ok. Sì, tu, quello che dici tu è quando dice un personaggio di non può beneficiare con il tuo di più di un long rest a terra lì a nel periodo di 24 ore a sbarrare le strade. Io rispondo ok, però mi servirebbe la mia famiglia per meglio supervisionare i lavori. Ma non sei, so dove sì, andiamo, scusami. Ma non ho senso. E che poi magari quando riusciremo a trovare due cavalli dobbiamo andare da trovare della gente può andare, per cercare di no, può andare a dormire perché si sveglierà alle 8 di mattina e mi servirà per il tuo aiuto. Ok, no, tu il beneficio lo hai dopo alla ti fine. Svegli nel long rest. Alla fine del riposo, quindi, quindi cioè, lo puoi iniziare alle 8, in realtà devi andare a letto a mezzanotte per sì, la esatto notte. No, puoi andare a letto prima ma non benefici il beneficio del riposo. Ah, ok. Il discorso sì è che non puoi addormentarti a comando e farti 8 ore di sonno che lì corrispondono a Red Full, chiaro che nella vita reale non è così. Però se però ti svegli, è così. Svegli la mattina non è che... Perché sennò uno potrebbe fare, fa una cosa, fa un combattimento, riposo lungo alle 10 di mattina, attacca, riprende le cose, va a combattere a mezzogiorno. Capito? Sì, non ha senso. Quindi potete sicuramente fare un riposo breve e poi andare avanti per riposarvi lungamente. Sì, recuperiamo il cazzo di famiglia di Fortuna. Mm-hmm. Cioè recuperiamo, tornerà indietro. No, usciamo a prendere il cazzo. Ok. Potete tranquillamente provare ad aggirare il... Ci sarà qualche creatura lì che si aggira, confusa. Posso provare a fare stealth? Sì, esatto. Vabbè, ma scusa, prima di uscire tu puoi iniziare a sparare Eldritch Blast per un minuto finché non c'è più nulla fuori, cioè. Sì, ma non vorrei essere visto dai licantropi eccetera. Posso provare a fare stealth e basta. C'è? Che cazzo. Perché vuoi sparare su Eldritch Blast o chi? Perché lui dice che c'è ancora qualche zombie magari che si aggira in coso, quindi. Vabbè, sono lenti, corriamo, ci sono. Ma scusa, spara qualche Eldritch Blast, finito, in un minuto. Non c'è solo la violenza in questo mondo, si possono anche fare le cose in maniera un po' più... Bravo, ma teniamo l'attenzione del più mannarido. Ma sti cazzi! Noi l'abbiamo attirata combattendo 6 anni, figurati se ne attiriamo adesso. Che... quanto fa di la violenza? Io lo porto dove mi pare, mio fratello, decido io. Bravo Marco, fai vedere tuo fratello che non c'è sulla via scura. 22. Non notano nulla. Ritrovi il tuo topo e il libro che aveva in mano la strega. Ma sei andato con lui o no? Se lui fa stealth no. Metto il libro nella sacca e torno indietro col topo. Cioè sto lì dalla porta ma non... Fai la palla. Sì. Cioè... Torni indietro senza saccaggio. Senza che... zombie o altre parti del corpo non morte, sì, perché ci sono sparsi delle mani, delle gambe che zompettano per il prato perché ovviamente non sanno dove andare. E tra l'altro sarebbe anche più sicuro per gli eventuali rinforzi che si devono arrivare, non trovare morti in giro, ma va bene, lasciamo zombie. Scusa, non possiamo prendere 10 mongrel e uccidere quelli rimasti? Ma hai visto? Il rischio è quello di attirare l'attenzione di più o qualcosa di peggio di loro, quindi se si tiene un basso profilo come aveva ipotizzato. Sì, ma non è rimasta tanta gente fuori che non abbiamo già ucciso? Adesso no, perché una grossa parte se n'è andata via non avendo più nulla da fare. Ma anche prima non è che ne fosse rimasta chissà quando. Insomma, giù ce n'erano ancora un bel po'. E poi non è detto che appunto facendo così ne attirate qualcosa di peggio che magari passava di lì, che si faceva i cazzi suoi. Il libro che hai recuperato, ci sono alcuni incantesimi e una lunga parte di formule magiche che servono da istruzioni per azionare una grossa macchina da guerra esoterica. Anche per costruirla? No, per azionarla. È manuale di istruzioni operativo. Manuale d'uso. Manuale d'uso. Cioè, che garanzia lo puoi riportare dietro? Ed è ancora fuori quella macchina, giusto? Quella macchina è ancora lì fuori. E la mano è stata. La mano, insomma, la parte della catapulta che tiene, diciamo, la cosa da scagliare è stata spezzata da un colpo di Esmeralda quando vi ha salvato. Ok, dico ad Atanas questa cosa e anche potremmo usarla. Sì, ma per portare dentro la cosa dovremmo eliminare i non morti che si aggirano per le strade. È quello che avremmo fatto 10 minuti fa e una mamma avesse detto sì, ok, faccio il Dredge Blast finché non muore nessuno. Dove è il Telez? Dove è il Telez? Questa è casa tua? Faceva lo short rest. Sì, ho fatto lo short rest. Questo appartamento qua quanti metri quadri? Non lo so. Ne hai contati? Vabbè, allora, la sfortuna ha trovato il manuale di istruzioni della catapulta infernale fuori. Sì, quello la catapulta infernale. No, ero lì, ho sentito. Sì, io Atan sto parlando a voi. Ah! Ho sentito. Sta ruolando. Quante sessioni non succedono. Permettimi se sono un po' stretto. Io di solito ruolo comunque. Stai cazzo. La strega è qualcosa di oscuro, andrebbe bruciato. Allora, dicevo, l'ho detto sapendo che tanto finiva il boomer. Ehi, fan service. Potremmo provare a tirarla dentro, però servirebbe un attimo un'azione trabucco, congegnata. Trabucco? Per usarlo, trabucco si attacca. O per attaccare. Quanto è lontano questo trabucco? No, era stato un botto, no? Mi ricordo se sì, c'è una parte rotta. America, io sono a livello 7, diviso 3? 2. 2. 4, no, 5, sono a livello 7, diviso 2. 8, no, diviso 3. 10, 11, 12. Quindi posso diventare un rinoceronte e trasportarlo. Ma c'è qualche bue, tra l'altro, anche in avanzato. Sembra un rinoceronte muore. È a 600 piedi di strada. Strada, quanto pesa? Sì, ma rega, no, cioè non usarlo come bilanciere, non è per non trascinarlo dentro. Vabbè, parla le ruote. No, non ha le ruote. Capito? Quanto mi è arrivato? Sta lì. No, però visto, non è per rovinare, anche se volevate aprire la porta per farlo entrare, cioè il bocello. No, se notate, al posto delle ruote ha tante manine scheletriche alla base. Magari sì. Scusa, magari se basta ripararlo e tu puoi comandare di entrare. Esatto, più probabile. Cos'ha? Solo un braccio smonco? Sì. Lo fissiamo, dai. Con lo scotch. Non viene smontarlo e portarlo a Sezzi. Se ti servono delle ossa per ripararlo, chiediamo ai popolani se c'è qualche volontario. Ma ci sono piene di cadaveri ovunque, guarda. Sì, esatto, abbiamo appena detto di bruciare 25 milioni di corpi. Vabbè, poi forse gli scheletri morti sono qui. A pezzi. Sono ossa sparse davanti al portone. Nel manuale c'è anche scritto come farlo muovere. Carbonizzato. Sì, ci sono tutte le istruzioni, ma sono in una lingua molto complicata e richiede una grande sapienza arcana. Eccomi! Che tipo di lingua? Che lingua è? Che lingua parlano? Io è druidico, nanico, comune, silvano o anche arcana. È argatto. Potente. per leggere trabocchi. Io ho il giornale e ho scheletri. Prima di tutto. Ah, anche tu sei l'elfico. Sì. Anch'io sono l'elfico. Che carini. Quindi non mi servi ad andare da ieri. No, mi servi uguale perché hai il carisma alto. Uscì, lo sciali. Non è che la trova la berlina. Uscì, che lo sciali. Ah, no, sono una brocca, non sapevo, poi sono andato. Resta, Brook. Lui va a Berlino. Buona, Brook. Pensa, Marco, che tuo fratello non viene al sushi con noi per risparmiare i soldi per venire a trovarti. Vieni a trovare. Ah, mi sono dimenticato. No. Se vuoi cioè, regalo poi sì, ti però non... Marco, lui ti regala quello che vuoi. Ah, sì? Sì, sì, lui fa regali. Tu chiedigli quello che vuoi. Marco, mi regala un Lamborghini che mi si è rotta la macchina. No, vabbè, che... troppo. Vabbè, no, dai, chiedigli una panda. Non te la può regalare. È una panda. No. L'alfabeto è nanico, ma non è la lingua che è di escrita. Qualcuno di noi parla... Ah, beh, i nani. Io nanico lo so. Io sarei un nano. Scusa, però intelligenza 8 probabilmente lui, vabbè, devi solo tradurre. Io sono nanico. Possiamo provare io e lui a tradurre. Il nanico devo provare a tradurle? No. Se mi facessi leggere una cosa in italiano. No, è tipo l'alfabeto nanico, ma la lingua è un'altra. Ah, ok. No, il mio in italiano. Le lettere sono nanico. Cioè, metti che. Sono come te io. Metti tipo leggere qualcosa che sembra che è scritto in cirillico, ma non è russo. Come scritto in italiano. Se prego, non si farebbe. È vero, è scritto in nanico, però è scritto in altro linguaggio. Scusa, perché cioè, è scritto con un alfabeto, ma con la sintassi un altro linguaggio. Nano delle montagne. Quindi l'alfabeto usato per scrivere quelle parole sono naniche, ma le parole che sono scritte non è lingua nanica. Vabbè, però se loro dicono il suono o che lettere sono... Non sapreste dire che comune lingua. Sei infernale, lo so. Cioè, come se fosse russo scritto con le lettere italiane. Vabbè, fate sei sto lettere comune, non lo so. Fate sto test di arcana che facciamo prima. Sì, cazzo, posso fare un test. Mi do guidance e provo a fare arcana. Vai. Io non capisco un cazzo. Però lo faccio anch'io per il fregio. Ventilato ovviamente quando non serve. Posso farlo anch'io? No, no, niente. Siamo 8, anzi. Capisci che vai, è sfortuna. Un libro di cucina. Sono delle ricette. Wow. Per fare lo 5. È un libro di cucina. Ah. Sembrava vabbè, dovremmo aspettare che Kevin si svegli. Sì, diamo a caso. L'immagine della catapulta era un po' ingannevole, però sì. Le ricette sono un po'. Vabbè, per il momento la catapulta sarà un'opzione più avanti al massimo. Adesso concentriamoci sul resto. Quindi niente, aspettiamo il responso dai corvi. Nel frattempo supervisioniamo i lavori e... No, scusate, il responso dai corvi. I corvi vanno là e si spera che l'abbiano mandato. Ho capito, magari risponderanno. Dice sì, ok. Vaffanculo. Invece stronzo. Che arrivare ti arriva sì, ok. E no, dopo no, nel senso... Un pezzo di carta con la doppia spunta blu. Nel senso, noi così sappiamo prima se loro due corvi blu arrivano. Vedo che ci mettono un'ora i cazzo di corvi. Sì, mentre loro... Sei un po' aggressivo. Sì. Ma quando ho iniziato a far tagli, aggressivo. Ho iniziato ad aprire. Va bene, è cominciato. Dai, che è aggressivo. Cominciate a preparare tutto quanto. Dopo 2 ore torna indietro. Ritorna un corvo con un messaggio sulla zampa. Uno strado, ho letto tutto. Aspetta, Giulio, mi non abbiamo Giulio. Capito il messaggio del piccione. Cosa dice? Dice arriveremo il prima possibile con delle provviste. Chi legge su casa? Ma nessun cavallo. Perché sappiamo che quella parte era scritta giù. No, ci servono veramente stavolta. Ancora una volta. Stiamo provando ad organizzarci con le cavalgature, ma quelle richiederanno più tempo. Cioè, la prima cosa che gli ho chiesto è che, scusa, se arrivano con le provviste subito, le porteranno con qualcosa. Cioè, mi hanno dato uno sciame di corvi per 4 parole, questo invece è arrivato con un corvo con la Divina Commedia. No, mi sembra. Arriviamo con le provviste, ma i cavalli non ve li vediamo ancora. Scherzavo, le provviste stanno arrivando. No, come detto prima, ok. Non mi sembra un messaggio. Le provviste stanno arrivando, ma i cavalli. No. Comunque c'è un piccolo problema: i cavalli non possono volare. Va bene. Ah, perché dici che arrivano in volo con le provviste che si assorbono la loro pelle da corvo? No, semplicemente le possono attirare con le loro zampe Che grandi provviste che un cazzo di corvo può trasportare. Cosa ti porta? Una nocciolina e dicono abbuffatevi. Tutto a posto, Marco? Non nella loro forma animale, nella loro forma ibrida. Cosa fa? Sono dei mezzi corvi uomini volanti. Degli orsobuffi. Sono dei corvi mannari. Ho capito. Ma quanto è grande un corvo mannaro? Il mannaro ha tre forme. La forma umana, la forma animale e la forma ibrida. La forma ibrida è una persona... Un kenku praticamente. Che però non è grandissima. È una persona di taglia media, qualcosa comunque riesce a portare. Magari faranno più giri. Però almeno possono arrivare prima con quello. No, può essere anche un ponte di una nave che cigola, non so perché questo. Nel frattempo, ma le provviste quante ne abbiamo adesso? In città, in città c'è quelle che erano sul carretto da cui facevano il razionamento, che già stavano facendo, che stanno finendo in. Aspetta, i prossimi. Ma noi adesso abbiamo il vino. No, abbiamo fatto finta di averlo. Ce l'abbiamo veramente. Sì, in realtà il carretto è nascosto fuori. Nel carretto che da cui stavano dando provviste c'è una piccola otra. Scusa, andiamo a recuperare il nostro carro. Sì, mi sembra un'ottima idea. Facciamogli finanziare, sono la stomaco vuoto. Sono alleati. Però deve più da qua. No, per avere il vino e basta. Non dobbiamo distribuirlo, dobbiamo averlo. Giulio, dai. Che cazzo stai facendo il mio? Sì, dai. No, e poi scusa, non era il carro di Van Richten? No, è un carretto pubblico, l'aveva nascosto. Il carro di Van Richten è stato nascosto da qualche parte. L'idea è buona, ma non adesso. No, dobbiamo recuperarlo. E dopo? L'idea è buona, dopo, una volta abbiamo un otre di vino e sono 30 popolari. Non è per loro, è per possiamo portarlo agli elfi, per no, dire. No, avevamo del vino. E comunque era un barilotto. Avevamo... Lui ha detto un otre adesso. Sul carro del razionamento del cibo, cioè, ah, scusa, che gli era stato gentilmente offerto. Da. Sul nostro come carro c'è un barilotto, potrebbe essere forse utile per andare dagli elfi. Sì, no, quindi no, recuperare il carro potrebbe essere. Dopo, quando arrivano le cavalcature, dal cielo cominciano a scendere delle creature più matte di nero. Ah no, ok, sono gli alleati. Stavo dicendo che palle, devo uccidere. Fate i corvi! Questo riporto breve l'abbiamo fatto, sì o no? Sì, per forza, perché un'ora ci ha messo il messaggio ad arrivare, un'ora ci hanno messo a rispondere, poi tempo di organizzare un po' di proviste e ci hanno messo quindi anche quindi dobbiamo loro... tirare da di vita per riprendere un po' di vita. Sì. Anch'io. Ma con riposo lungo torni full? No. Le recuperi la metà. La metà di quelli che hai perso? Dei massimi. La metà dei massimi. Io ero a. Quindi sei al settimo, ne recuperassi. Settimo, no, avevamo già fatto il riposo. No, dico PF. Ah, sei a 47. No, scusa. No, quanto si recupera col riposo lungo? Col riposo lungo ritorni full. Full? È automatico anche se sei. PF, sì. Ah, ok. Scusa, non mi ricordavo quello. Mm-hmm. C'erano delle regole. Beh, io comunque per sicurezza uso tutti quelli che mi sono rimasti. Mm-hmm. Che mi sa che sono 4. Ok. Sono uno. Io ne uso altri 2. Stai di 10 o meglio. Tutti gli andati giusti. Mi ho ricamezzato e devo andare. Cosa sì, c'è? Sì. Allora, adesso chiudiamo. Facciamo, escogitiamo il piano per la prossima. Il piano, raga, cioè. Io ne tiro 2. Un 8? No, nel senso. Vidi o. Un 8. Cosa stiamo facendo? Più così. Allora, riposo breve. Quindi 12. Breve. No, in questo caso? Cosa? Dopo fare uno. Quindi 1 più costituzione. 9. Sì. Dai. Non è il dado vita dai. Del primo livello. Io ne recupero 17. Cazzo ti lo metti. 17. Quanti di 8 bisogna tirare? Quanti vuoi tu? Ah, fino a massimo di 7. Fino a massimo di 7, calcolo che con riposo lungo ne recuperi 3. Anzi, da 3. 11. 17 più 12. Più 12, 29 io ne recupero. Sei full? No. 47. Io come sono messo di più base? 29. 67. Ah, io ho 76. 76. Che male. Io penso che ne ho ancora uno. Tu sei a 16. Beh, sono come strano. Sono 16? Barbista. Barbista. Ah! 10, 19. Paralizzato ancora. 19, 23, io vado più 35, 35, 39, quindi vado a 49. Allora qua devo scegliere quanto usarle, ma non abbiamo già usate? No, alcune sì, infatti. Non c'è da patto con i contadini. Non lo so, tu non so quanti ne avete usati, non è che tengo. Io ne avevo segnato uno. Io ne avevo usati tre. Io ne avevo usato uno, adesso altri due. Sì, avete fatto il riposo breve prima del duello. Sì. E io ne ho usato tre dadi e io adesso ho usato prima del duello. Ne avrei usati massimo due. Ma no, io no. No, due o tre ne avrei usati. Quindi te ne avrai quattro, diciamo. Però poi dopo se faccio il lungo non recupero nulla. No, vai full vita e recuperi tre dadi da vita da poter usare in un riposo breve. Io ne ho usati 5. Adesso? Eh? Adesso? Sì, adesso. E quanto vai? Sono full. Vabbè, non hai un cazzo di vita. Sono 40. E recupero due slot di secondo livello da stregone. Sei a 40 o sei full? 40 è il mio full. No, è 47. Perché non sapete? Come 47 è full. Beh, 47 l'ultima volta. Come sei entrato Marco con il dottorato lì in Germania? Hai entrato un calcio alla porta e hai detto 29 punti ferita. 29, 39. 45. Sì, non puoi averne 40, Marco, cioè a livello 6, 8. Ah, no. No. Ok. La novità tira il bardo di 2. Il di 1 meno 2. No, il di 8. Di 8, no, di 6. Di 8. Oh, di 8, di 8. Solo sai in costituzione. Solo stregoni e maghi tirano di 6. Io ho 10 primo livello e 7 ogni altro livello. Sì, perché ho messo 40? Ne dico la ragione. Ah, perché ha un tiro automatico? Cioè, che senso 7 ogni altro livello? 10, che sei 8 più 2 e 5 più 2. Ah, prende la media? La metà più 1. Ah, come quando media. Noi non facciamo un risultato più alto. Perché lui prende la media e noi non prendiamo. Noi andiamo meglio in teoria. Sì. E perché lui così? Perché l'ha creato così. Ah, l'ha creato al 7. Dipende. Sì, hai ragione. Quindi ho 46 di vita, non 40. Ma perché non li hai tirati? Ma no, ma devi di più, scusami. Se sei 7 per 6 fa 42 più 10 52. È 52. Ma la mia vita aumenta, Marco, ti fa un po' male stare. No? Ma magari sbaglio. No, hai ragione. No, 7 per 6 42 più 10 52. 52 più 10 52. Bene. Una creatura con 15 pf in meno, cos'è? Alata piumata di nero a terra nel piazzale. E il suo aspetto, una volta che tocca terra, cambia e si ingobbisce e si appoggia. Ho capito perché avevo i dadi di vita in meno per i vampiri. Ah già. La progenie. Vedete il vecchio Davian Martin con. Non male! Bello! Signor Mario, lei è un tablet! Sembra tanto questo! Però stanno assunti da Dio. Che appoggia a terra delle provviste e si avvicina a voi. Nel frattempo altri. Non l'ha mai visto questo qua? È il proprietario della vigna. In questa forma l'abbiamo visto, ma non ci avevi fatto vedere. È la prima volta che l'avete visto. E sì. Aveva questa cosa che brillava lì. E queste cose che brillavano. Sì, i corvi sono molto attirati dalle cose. Era quello che vicino al cartello. Era quello vicino al cartello che vi ha chiesto di aiutarlo e voi l'avete fatto ed è, vi è molto grato per questo. E vi ha fatto entrare nell'ordine. Se voi non ci siete alle sessioni, rega. Cioè. Ah no, perché io ero. Io ero da un'altra parte. Mi scappavo dalle cure. Era in una tomba con la testa di cane. No, è vero, giusto. Vabbè, sei scusa. Non uccidere. Si complimenta con voi e vi dice: il vostro valore precede soltanto la vostra avventatezza. Non avremo. Non è un complimento. Beh, in realtà sì, perché siamo veramente molto avventati, quindi siamo anche molto molto molto valorosi. Il vostro parola è il vostro puzzo. Grazie signore. Mi è molto grato per il vostro coraggio e presenza solo della vostra, il vostro lezzo. Penso se avessi usato la parola follia. Ci avevo pensato. Non avrei mai pensato un'impresa del genere fosse possibile. Ma delle merde come voi. Io facevo ridere, ho detto questo vecchio mi è molto riconoscente, è stata la vita a vostra adesso. Sporchi la vostra punta di sentire con la vita come sento qualcosa. Ora però viene la parte più difficile, perché certo, il maligno non starà a guardare, e faremo il possibile per foraggiare questa gente, e in cambio vi chiederemo protezione, perché chiaramente in questo momento siamo diventati un bersaglio facile. E la mia idea è questa. Venite ad asserragliarvi. Ma questi PNG che ci espongono cosa dobbiamo fare, però. Cioè, venite ad asserragliarvi la nostra fortezza, qua il loro numero non conterà nulla. È quello che stavo pensando, signor Nano. Mi chiamo Pat. Signor Pat. Nano. Mi chiamo Nano. La sua maleducazione. Onde evitare che la gemma che abbiamo faticosamente recuperato venga sottratta di nuovo, potremmo proteggerla. Abbiamo recuperate due. Credevate di aver recuperato due. Ma Thanos ha già preso l'altro. Me la ricordo questa cosa. C'era la luce rossa della gemma. Già sparata. Sì. Pianteremo la gemma in questo terreno e ci nutriremo dei frutti che ci darà. Sì, perché? Mi sarei nutrito della gemma. Vabbè, un'idea l'avete. Avete visto che cosa succede? Il potere della gemma, che cosa fa? Sì, ma non se uno mangia la gemma. Magari diventa super potente. Magari. Però. Infatti. Quello che volevo fare quando ero a forma di cane. Però. Ok, mi avvicino. Ah, no, stai ancora. Quindi? Ah, tu sei la prima volta che li vedi. Quindi se ricordami che ti devono presentare. Cresce l'uva. Possiamo fare il vino. L'idea è più o meno noi quella. Il monopolio. Vogliamo vino. Tutto il resto. Ma vino noi, per tutti. Ma noi, questo è solo il primo passo. Piccolo passo. Io voglio fare il vino. In cambio di è una scena di Once Upon a Time. No, una sola. Come non lo so, non l'ho visto, ho messo like. Che falso, sì, di me, lo sapevo, perché ti hai messo un like, no? Salutiamo Yak. Capito Yak? Canta di metti like a cazzo. Sì, buone scoperte. Per le cavalcature, però, avremo bisogno di scortarle dalla fattoria. Beh, qui. È già tanto che ci avete portato subito. Beh, le siamo arrivati appena abbiamo potuto, quindi abbiamo capito l'urgenza della situazione, visto il numero di messaggi. Però le cavalcature, c'è il numero di messaggi. È tipo link WhatsApp. Perché dobbiamo il più velocemente possibile quando riuscite, perché ci servono le cavalcature per raggiungere gli elfi, i messaggi che ci avete mandato. Mm-hmm. Di per cercare di convincerli a unirsi a noi. È un'impresa ardua, ma mi fido della vostra vista. Ah, allora perfettamente senso. Mi fido del vostro giudizio per velocizzare. Gli elfi sono i primi che abbiamo cercato di portare alla nostra parte. In realtà sì. Per velocizzare la cosa potremmo procedere in questo modo. Due a due potremmo trasportarvi in volo alla fattoria e poi da lì prendere le bestie e scortarle qua. E no, dobbiamo supervisionare anche i lavori. Pensavo di mandare solo due persone. Purtroppo la battaglia per Kresk ancora non è terminata. Ah, che cosa succede? L'ho scritto nel messaggio. Forse mi sono arrivati i pezzi. Nell'abbazia sono asserragliate delle progenie con una delle mogli di Strad e il figlio del vecchio borgomastro ha acquistato qualche potere. Se mi ricordo bene, dovrebbe esserci una nostra spia nell'abbazia. dei nostri cari animali. Potremmo chiedere a lui. Sì! No, è un corvo normale quello che tu hai ucciso. Sì, sì, uno dei nostri piccoli amici. Ah, infatti. Non abbiamo visto che lo uccideva. Ah, oh, cazzo. Sì, l'hai ucciso. Quello, lui potrebbe darci informazioni preziose. Pensa quante sessioni in master ha aspettato per questo momento. Pensaci. Ma dove potrebbe essere finito? Potrebbero averlo scoperto. Cioè, alla fine, non, in realtà, il mio personaggio non collega a quello era la spia loro. Anche perché quando abbiamo provato a comunicarli, non comunica un cazzo. Però. È un corvo quello che ti dico. Vabbè, ho capito. L'abbiamo chiesto, sei uno dei corvi? Di solito si appoggiava ad avanzare di questa così. Se ammazzo magari rispondi. Va bene. Gli ho dato le possibilità, Sì, sì. Sì, beh, diceva che in realtà ci rispondeva. Allora radunaremo qui tutte le nostre forze. Possiamo mandare degli altri corvi, E assalteremo l'abbazia, se questo è quello che proponete. Ah, cioè, voi ci dareste la mano? Così, beh, non vi lasceremo certo soli al vostro destino. Però beh, se volete, sì, ciao. Aspetta. Dalla vigna, quanto è distante? La cosa da ieri. Allora. Potremmo andare, se no. No, ma è che io comunque da Yefi posso mandare due persone. Sì, ma dopo, quelle due vanno subito alla vigna in volo e partono da piedi 1, 3. Comunque mezzo, dobbiamo aspettarne le ore. Cioè aspettare 5, le cavalcature 6, qui quando invece 9, in un'ora puoi essere dalle cavalcature meglio. Tanto l'attacco all'abbazia non lo faremo tra breve. A piedi 10 e mezzo. Quindi 5. Durante la notte secondo voi non escono fuori questi? Ah, è vero. Se escono durante la notte siamo comunque fottuti, non cambia nulla perché non abbiamo tempo di recuperare. Cioè magari, visto che comunque tutti i corvi arriveranno prima della notte, magari loro se ne stanno dentro l'abbazia. Cioè, che se loro ci mandano subito i rinforzi potrebbe quasi convenire andare adesso. No, perché cioè o combattono solo loro o noi, cioè esatto, l'angelo con un attacco sega uno di noi. Però l'angelo era quasi KO. No, l'angelo era quasi KO ore fa. Cioè adesso potrebbe essere di nuovo. Conta che tipo i vampiri ogni turno regenerano 10, noi l'angelo non sappiamo. Quindi io manderei le due persone a questo punto là, così partono subito e riusciamo a radunare tutti il più in fretta possibile. Rispondi la tua idea al corvo. È qui, senti. Ok. Quindi chi parte? Io pensavo di mandare. Vabbè, più diplomatici, andiamo. Pensavo di mandare Sfortuna e uno che lo accompagni, che deve essere un guerriero, uno di noi. In realtà la cosa più sensata è lui. Quindi è diplomatico. Cioè i due diplomatici del gruppo. Cioè, tu Varistran, visto che non vi fidate, non ti fidi di me. Ma per andare dove? Da ieri. Ha senso che andate voi due effettivamente di più diplomatici. Io devo andare? No, io pensavo Sfortuna e uno che lo accompagni. Però chi lo accompagna Garrosh. Per il motivo? Perché è carismatico. È simpatico. Beh, ok, però è più facile che ha senso perché non lo conoscono. Non lo conoscono. Non l'hanno mai visto prima. È più facile che possa convincere rispetto a qualcuno di noi. E poi uno di noi, perché comunque per non mandarlo da solo. Quello di noi deve essere. Io pensavo a un guerriero, quindi uno di noi tre. Cioè, posso andare anch'io, per me non c'è problema. Però vi dovete fidare. Io mi fido del tuo giudizio. Preferisci andare di persona o preferisci essere qui? Un guerriero. Per non mandare tu. Perché sennò dopo non abbiamo più incantatori qua. I corvi in un'ora possono portare due persone alla vigna. Da lì partono quei cavalli. Quindi due persone ci andrebbero qua subito e ci sta. Però io quello che non capisco è perché non stiamo aspettando di avere Kretzk. Cioè nel senso. No, ci servono gli elfi per prendere Kretzk. Per avere più aiuto possibile. Ma riusciamo a fare il tempo secondo voi? In 5 ore i cavalli sono là. Vabbè, tanto in una speriamo di mettiamo in 10 ore. Speriamo di in massimo mezza giornata di essere tornati qua, se non con gli elfi. Va bene, dai, vado 12 ore con una risposta. Perché tanto se prima di 12 ore ci attaccano non abbiamo fatto ovviamente il gioco, insomma, non ci siamo riposati. Ovviamente chi va là, chi va là non riposerà stanotte. Ma qui o qua? No, va bene, andiamo io e Fortune. Non risposiamo però. No. A meno che non ti diano una sorta di carro, però poi ci metti di più, giusto? No, non, si, non c'è un carro. Se qualcosa va male, il paladino è più utile nella città che fuori. Cioè, più che altro siamo tutte e due che... non so. Se no vado io. No, per non... no, non c'è per forza da recuperare. Perché io posso anche trasformarmi in qualcosa di veloce. Sì, e ma lo tu devi riposare. Sì, ma no, io riposo breve, ho già le forme. Sì, ma in ogni caso un incantatore qua ci serve. Per capito, sicurezza. Tanto io sono all'incantesimo al momento. Ho capito. Comunque ti trasformi, sei utile. Quello è il fatto. Non riposare è impegnativo. Per quello dicevo. A me non cambia tanto non riposare, perché a me quello che conta sono il metagame. Sono i riposi brevi, quindi io, cioè mi cambia per i punti ferita, che me ne mancano 20, però ame. Io sono a metà vita più o meno, giusto? No, quanto sono? Tu sei, sì, metà, un po' meno. 37 su 85. Il paladino deve recuperare. Non lo so, raga, io aspetterei... Domanda, da solo? Dite che non, cioè, non possiamo prenderla... Da solo, mandarlo da solo. Intanto non so dove andare. Intanto sì, non sa dove andare, non c'è mai stato. Sì, no, è vero. No, no, Raga, ma se mi trasformo e vado avanti e torno. O andiamo io e lui oppure aspettiamo. Beh, andare col druido mi sembra una buona idea. Posso diventare un coso alce gigante che va a mannaia e arriviamo là. Potete andare voi due, solo che io non volevo mandare tutti no, e due incantatori. Ma via. Due vado io. Avete però... anche Kevin. Così non ho neanche idea. In questo momento non abbiamo. È perfetto. Cioè, se partiamo prima. Vabbè, se volete andare voi due, andate voi due. Ci facciamo trasportare non alla vigna, ma nella direzione del villaggetto degli elfi, poi lui si trasforma e io vado salgo sopra. No, per carità, voi due adesso potete anche subito partire da qui. Sì, anche perché non è forma animale, dura 7 ore. In 4 ore siete là. Non... Vabbè, la fai due volte. Indietro, devi beh, ma magari scavalchiamo almeno la foresta dove ci sono i più mannari. Ma Marco, ma è la pippa al culo. Beh, scusa, qua... tu hai invisibilità, no? No. Non hai recuperato qualcosa? No. Io ho 3 magie di secondo livello e una di primo, però non ho invisibilità. C'ha quella del Warlock, se sto fermo, mi sembra. Ah. Vabbè, stai fermo su Arce. È scomodo. Funziona proprio. Come si dice Alce? Elk. Vabbè, ti puoi trasformare anche in un'aquila gigante, andate in volo. No, perché... No. Ma no, è vero, ci manca un cazzo di livello, è vero. L'ho visto. Però senti che risata, senti. Oh, alce volante. Se il cervo volante, perché non deve esserci l'alce volante? È gigante elk, è livello 2, posso farlo, si muove di 60 piedi, che è come l'aquila, ma al contrario dell'aquila le corna. Per il resto è uguale. Capisce il comune, Silvano? Ma non può parlare con loro. Okay. No, sì, va bene, partiamo subito allora. Ok, allora vi incamminate, cosa dite prima di partire? All'alba del terzo giorno, guarda. Mamma, una cazzo di rana gigante. Arci, cosa dici prima di partire? Cosa? Cosa dici prima di partire? Tieniti forte. questo è il mio vero, buono. Galoppano verso la prendo 10 minuti per fare un discorso, non ne mordete, torneremo, forse la città, e se magari trovate qualcuno disposto a vendere l'anima al diavolo sarebbe anche più utile. Capito? Così faccio inspiring leader e prendono tutti. Ah, è vero. Tutti qua, c'è un limite di persone, proprio tipo... No, 6 persone. 6 persone, ok. E siete ispirati a vendere l'anima al diavolo. Vabbè, non sprecarlo, fai, io credo di averlo già fatto, però. Posso farlo quanto vuoi. E più volte. No, dico 6 persone adesso. Ah, Ho acceso vari mutui sulla mia anima. Un talento per ispirare coraggio e darvi dei sei punti. Persone, ha detto, ho capito bene. Ah. Per quanto tempo? E... non mi ricordo. Quindi noi tre... ma non so quanto durano i punti vita temporanei? Fino al riposo. Cioè sì. Fino a allora anche riposo. Va bene, anche noi, cioè, noi 1, 2, 3, 4, 5... E Race. Ma io ne... sì. E Race, 6. Comunque prima che parchiate ti spiego un attimo qual è la situazione degli elfi. Va bene, questo quindi ci possiamo aggiornare. Quindi ognuno prende volta. 11 da temporary hit points. Io mi sa, vabbè, io sono tipo 42. Vale anche per casi. Ah no, secondo me li fa che non sono è lì ad ascoltare. Presenti. No, magari li fa dopo. Sta riposando a casa. Sì, no, sono vabbè, comunque scrivo più 11 temporanei. Ma anche Race. 11 temporanei tutti. Race è anche un popolano a caso a sto punto. Scusa, sei persone. Non sprechiamolo, anche un popolano. Facciamolo un corvo a sto punto. La moglie. No, scusa, facciamolo a Kevin. Al topo di al top. Ha detto che non è Rich can include. Non torniamo lì. Devi ascoltare. Lo teniamo per le orecchie. Ah, giusto. Ho sbagliato. Non ha orecchie. No. In realtà gli ha. Gliel'ha rubate Race. Va bene, ricordati punto. Non è vero, non le ha. Temporale. Molto bene, quindi la speranza di Vampa, la Barovia, Stone Force. Ma. Bene, avete visto il 33esimo episodio della maledizione di Katta, e che dire, tenetevi forte! Tenetevi forte. Potete continuare a seguirci sui nostri canali social. Ti ho mandato un sacco di puntate. Mi hai mandato un di sacco notte. E adesso... e recupereremo. Amici del podcast, esatto, e recupereremo anche col podcast. Quindi grazie per averci seguito. Alle prossime con Tycoons and Dragons. E che dire, tenetevi forte! Tenetevi forte, no! C'è la, lo tenetevi forte! Lo spin-off Patke e Sfortuna. Esatto. La coppia improbabile. Com'è? Marco, facciamoglielo vedere. La linea comica.